Claudio. Sì. Ciao qua. Ecco. Dimmi com'è adesso questa radio. Prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova radio. Dimmi se è ancora a Tatola. No, io non la vedo a saturazione. Ok, no, quel baracchino lì di era Tatola, no? L'ho toccato i trimmer, sembra, però me li cuffia, mi dà un risultato buono. Tu mi stai dicendo che va bene, niente saturazione comunque. Oh, è la tua voce, si sente leggermente meno sicuramente di ieri, questo senza ombra di dubbio. Ok, vabbè, la mia voce oggi non è chiarissima, già c'è un po' di raucidine, però sembra a posto, sentendomi così io in cuffia mi sa che va bene. Sì, anch'io ti posso dire che sentendoti così va bene, poi vediamo se usi questa radio più tardi, se quando scalda, perché io ieri non me ne sono accorto, inizialmente non stavo facendo niente, poi dopo ho iniziato a saturare. Ok. Va bene, allora lascio così, dovrebbe andare bene, può abbassare un po' la LC, la provo a abbassare. Ma la LC cosa la faccio a fare? La LC se spinge più di radio, e i watt che devi cercare di abbassare, quanti watt dà? 8 me ne sta dando, 8 giusti. Portala a 6 watt, vediamo se c'è variazione del radio, io me ne accorgo subito, metto le cuffie. Vediamo se c'è variazione del radio, portato a 6. Vediamo. Quindi è poco, troppo poco. Ecco. Così è 6 watt. 6 watt così sono, va bene. Portala a 5 watt, c'è stato un cambiamento allucinante. 5 watt pieni portalo. A 5? Questo è 4. Cioè, vedete che è troppo largo e non entra bene. Però abbastanza da onde, sì. Ecco, 5 watt, così sono 5, giusti. Ti faccio ascoltare, ti mando, così è bella la modulazione, vedi che c'era troppa potenza, ha ragione Marco, il baracchino deve andare massimo 5 watt. Ciao Marco. Buonasera a tutti, finalmente Giulio sento la tua voce. Sì, guarda, ti faccio un esempio pratico, a Pomponi avevo regalato un Connex 4000 Echo, no? Che usciva con 4 watt e aveva una radio eccellente. Lui cosa ha fatto? Con la mania della trasmissione 8, 10, 11 volte. Beh no, non è un MOSFET, tollera poco le alte potenze. Quindi non c'è da fare anche con 8 watt, saturava. Con la messa a 4, 5 watt usciva benissimo. E la tua voce, poi a 4, 3 e mezzo era più forte che mai la radio. Però a 5 è una cosa giusta, dai, equilibrata. E prova a parlare un po' più forte, come se volessi gridare. Al limite aumento il microfono. Attento Marco, 1, 2, 3, prova, va bene così? Adesso va meglio. Naturalmente devi mettere il mic gain, ovviamente a manetta. Come si dice, la LC AM, la modulazione AM va messa a manetta, perché deve squillare di più, capito? Come è come il 3009 col display blu non omologato, capito? Che esce bello squillante. Ok, allora vediamo un po', stazionario 1 e 1 watt in questo momento, vediamo 5 esatti, vediamo un po' se, ecco qua, regolata calibrato perfetto, per cui dovrebbe andare bene così. Io mi sento benissimo in cuffia, la verità. E sto usando le BB più 4. Eia, sì, adesso io ti sento bene, ti sento meglio di radio. Prima era poco saturo, però si sentiva. Sicuramente quel baracchino c'è il 1969, quindi tollera poco le... Non è un MOSFET, se fosse un MOSFET allora cambierebbe il discorso. Vai Claudio. Sì, però tu gli hai detto di toccare che cosa? L'LC della M, portarlo al massimo. Al massimo ce l'hai l'LC della M. Sì, la LC della M è al massimo, sì. E il resto, ripeto, 5 watt su tutti i canali mi dà, per cui dovrebbe andare bene così. Io non lo so, mi sto ascoltando con la cuffia, una cuffia abbastanza seria ed è squillante, bella, chiara, senza nessuna inclinazione. E poi devo abbassare ancora, non so, a 4, per me l'abbasso, non c'è un problema. No, lascialo a 5 come watt, adesso stiamo parlando di radio, infatti va benissimo, saturazione non ce n'è più, non era la tua voce, adesso è perfetta, squillante, come radio. Ho detto l'MB più 4, che distanza ce l'hai, a quanto ce l'hai? Ah beh, questo i numeri è 1, 2, 3, a 4 dovrebbe essere, 4 sì, 4. L'MB più 4 ce l'hai a 4, mettilo a 5 a vedere. Aspetta, vediamo ancora un po', ecco. Ecco qua, adesso è a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bella la modulazione, Marco, cosa dici? Ottima, ottima, io per me avrei alzato anche a 6. Addirittura? Vediamo, vediamo. Ecco qua, così, così, così, è troppo alto, non è troppo alto, è così. No, per me no. E allora lo lascio così. Bella chiara e bella, anche bella presente. Allora confermate che lo lascio così? Per me sì, per me la puoi lasciare così. Richiudi tutto, avvicinati normalmente all'MB più 4, va bene. Il mixing della radio mettilo al massimo. Adesso è bella, prima era satura perché aveva troppi watt in quella radio, deve lavorare a 5 watt. Ok, ecco, avvicinandomi di più alla radio, ecco, mi sento ancora molto più forte avvicinandomi al microfono. Adesso sono a 35-40 cm dal microfono. Bella è Giulio, così devi modulare. Adesso è bella veramente, bella, bella, forte, squillante e chiara, chiara, molto chiara. Ieri era satura. Questo è a posto. Ok, allora confermato, datemi 10 minuti che chiudo tutto qua, libero tutto dai freddi, dagli attrezzi eccetera, e dopodiché ci risentiamo, ok? Gaffa di Rogero. Sì, questa è una signora modulazione. Hai visto Claudio che avviso rispetto a ieri? Ma qualcosa c'era che stava saturando, perché inizialmente no, però dopo sì. Più scaldava la radio più ne risentiva, capito? Lascia invece con il watt a 5, va bene. Sì, l'importante è che l'apparecchio scaldando si spera che non saturi, perché sai, magari è stato toccato. Adesso comunque lo collaudiamo, dai, lo collaudiamo. Proviamo a modulare dalla sera. Sì, per Natalino. Natalino, ci sei? Mi avevi mandato un messaggio stamattina. Non ti dico a che ora mi sono svegliato. Natalino, stamattina abbiamo fatto le prove. Era con me. Ha messo l'antenna fuori, come gli ho detto io, solo che è bassa, attaccata al tubo, come gli ho detto io. Ok, con la staffa palo palo, l'antenna girata, la staffa verso l'uscita del vicolo. Arriva qua Santiago 5. Prima arrivava Santiago 3. Sì, sì, vabbè, c'è stato un giusto miglioramento. Anche col gomino, quando stai dentro casa è un conto, ma appena ti affacci alla finestra cambia radicalmente. E poi quando entra, infatti alle 10 di mattina, 10 e mezza, mi ha mandato un messaggio. C'ero disponibile a una prova, ma io sono svegliato a mezzogiorno e mezza, mi pare. Via da te. No, io mi sono non accende più. La TV del salone, quella grande. Che marca è? Mifar. Ho capito. Guarda Claudio, se non dovesse andare bene più, compra LG o Samsung. Non comprare altro, o Samsung o LG. Sono le due marche che stanno andando per la maggiore ormai. Mamma c'ha LG, mi pare. Sono le migliori in assoluto ormai. Non comprare Toshiba, per carità, mia zia Toshiba c'ha 1000 difetti. L'assistenza è quello che è. Ricordati, LG o Samsung. E sono molto affidabili, insomma, salvo che non ti capiti un esemplare già nato male. Ok. Sì, poi Mivar, mamma mia, ma c'è l'assistenza Mivar ancora? No, ho sbagliato, scusi, è un Grundig che da 32 pollici, era di mia suocera questo, no, no, per un piatto. Sì, adesso ho messo le leggi nel salone, però l'ho dovuto togliere la camera da letto, sono senza TV in camera da letto. Un 32, un 32 Grundig, solo che vabbè, così dai, invece a mamma un 40, cos'è, un 42 il suo, o 40 o 42 in camera, quello luminoso, il nero, già più nero, insomma, poi per le partite è spettacolare lo schermo grande, se mettete un 42 già è spettacolare, va bene. Purtroppo di fredda giornata, non siamo usciti, altro che piazzare i segni, eh? No, io vabbè c'è una tira, non so che cosa fare, mi sono in banca, mi siete qua, mi sono andato alla casa di qua, no, poi sono andato, sono andato verso mezzogiorno e mezza, ho detto segni, però ho fatto in fretta, adesso sono andato detto anche quello così culo, sono andato per un po' di formaggio. Sono andato poco fa. decentino, un bip, mezzo bip, dai. Ha detto che si è alzato poco fa, è stato la pennichella. E io, oltre che mi sono alzato tardi, ho fatto anche la pennichella. Perché sai, quella sotto la coperta stava così bene. Sono in pigiama, siccome non sono uscito, non... inutile anche vestirsi. Me ne rimango così, pazienza. Io dopo sono uscito, non sto a casa io, anche sono in pigiama. Un po' più pesantino, ho iniziato a mettermi e niente, non ho fatto pennichella, sono aumentato più, sono stato un po', forse 5 meno 10, 5 meno 4, da lì a 2, perché adesso partiamo a 2 e mezza, prego alto, prima sempre a 2 e mezza, alle 3, e perciò adesso usando un altro baracchino, Giuseppe. Questo è un baracchino uguale al tuo, base 220, 40 canali. Sempre più basso, Giuseppe, non ho capito niente, ho capito GBC, cavo, PL, avvicinati al microfono e parla tranquillo e sereno, senza spezzettare, piano piano. Cosa hai detto? Dove? Oh, io non sento niente, prova Giuseppe. Che microfono stai usando, Giuseppe? Cosa c'è a fianco? Cosa c'hai attaccato? No, vabbè, no, allora è la ventola o... che palle questi, o questo cazzo di trappano. Non hanno ancora finito di rompere. No, vale, è la ventola, c'è l'alimentatore piccolino sulla radio che alimenta il rosmetro, la luce del rosmetro, capito? E quello è da eliminare lo stesso, perché fa solo casino. E prima non lo sentivi perché usava il microfono normale, adesso c'è il microfono a fianco sul baracchino, è chiaro che lo senti. Oh, Giuseppe, ieri era Santiago 6 almeno, modulati, oggi è modulati e 5, sembra che stia abbassando sempre di più. Cosa vale? Sì, sì, vi ho chiamato, poi aspetto, questa cosa va più finita, capito? E io facevo scaldare un attimo questa radio, poi passo con l'altra. Belli quanto siano, ma non mi piace. Ok. Giuseppe, che cos'è che hai detto? Quindi c'hanno il cavo, c'hanno i PL e lo fanno loro. E cosa devono fare loro? Abbassare l'antenna, sostituire il cavo stop. A me mi interessa che loro mi saldino bene il PL e attacchino bene il PL nell'antenna. Ok, quello mi interessa a me. L'unico lavoro che devono fare è quello, è buttarmi il cavo giù, non devono toccare altro. Bravissimo, allora quando loro saldano il PL, prima di attaccarlo, tu che lo sai fare, perché lo sai fare, ti controlli il PL se è saldato bene e se è tutto a posto. Dopodiché dici ok, adesso lo potete attaccare, glielo fai attaccare bene, che non lo stringano con la pinza, che lo stringano bene, ok? E le fai mettere una fascetta, non buttare il cavo così, le fai mettere una fascetta dove una volta che il PL è attaccato le fai mettere una fascetta sotto in modo che il PL rimanga fermo, capito? Quando il cavo va attratto al tubo, ok, glielo fai appena appena tirare in su verso il PL, le fai mettere una fascetta fermo. Sono rientrato. No, se no poi strappa. Mica c'ho il cipitomi. Sì, vabbè, ma perché non sono stati attenti, se no se ne accorgevano che quello era un cavo da 75 ohm. Se ne è accorto Massimiliano, scusa, non se ne accorgono loro, che sono antennisti. Comunque, a me mi va benissimo. Quando è che vengono loro? E ci salgo anch'io di mattina, quando vengono loro? Venerdì pomeriggio, quindi abbassano l'antenna e ti cambiano il cavo, ok? No, non è alternata, è la ventola dell'alimentatore, Giuseppe, non è alternata. No, no, è la ventola che è rumorosa, già l'ho vista, ti ricordo l'altro giorno sentivo quel rumore, ma cos'è? E poi Massimiliano l'ha spento. Intanto quell'alimentatore va eliminato, va tolto tutto, non te ne fai niente, già si vede lo smith, già si vede la luce del corso. Si troverà un'altra soluzione per illuminare lo strumento. Di certo mi devo tenere un alimentatore da 25 ampere per illuminare uno strumento, è assurdo, capito? Se non si allontana, si mette da qualche altra parte, quando ti serve illuminarlo, lo accendi l'alimentatore, se no lo lasci stare spento perché fa solo casino. prima. Ieri era Santiago 6 modulato. Oggi è Santiago 4 modulato, nemmeno 5, nemmeno 5, è più basso di ieri. Cosa sta andando peggiorando, boh? Sono rientrato. No, sicuramente è sganciato, vero Giuseppe? Sei sganciato? Giuseppe, ho detto se sei sganciato. Baracchina, baracchina, vedi che anche io baracchino difficoltà quando uno ha un'antenna buona. Avanti, io Giulio, riprendi che cambio radio, Ok, dai. Sì, allora ho chiuso tutto, tutto a posto. Speriamo di sì. Adesso vediamo quando scalda. Non lo so. Riprende Marco. Ogni radio. Forte? C'è un abisso rispetto a ieri. Proprio era satura. Pomponio uguale. Quando aveva il Comex 4000 Eco, no? Dentro è come quello, no? È un 3009 alla fine. Nulla, lui per avere 2-3 watt in più usciva saturo. Ho detto, ma scusa, tu preferisci uscire bene, bene, o uscire più forte con la radio di cacca? Ma io preferisco mille volte uscire bene, ma insomma bene. E insomma lui si è alzando abbastanza, alla fine facesse come vuole, però mi pare che l'abbia messo a posto quel baracchino, l'ha messo a 3-4-5 watt, cosa del genere. Vediamo qua, prova Giulio. Ok, va bene, sono un po' rauco anch'io, comunque io un leggero, mi raschia un po' la gola mentre parlo, comunque diciamo che dovrebbe andare bene, però in cuffia io mi stavo sentendo molto bene, poi uno la cuffia e l'altro è siete voi lì a distanza, indubbiamente. Vediamo un po' come funziona qua, vai. Come funziona la bomba G, alla grande. Un abisso da ieri, era troppo alto quel i fatti, capito? Vediamo Giuseppe se mi ascolta adesso. Giuseppe, ti ho detto se sei sganciato, perché da Marco hai abbassato, com'è lì la situazione? Agganciato a quanto ce l'hai? A 4? A quanto ce l'hai? A 4 o a 5? Giuseppe, a quanto ce l'hai agganciato? A 4 o a 5? E allora cerca di fare passaggi più corti possibile, perché stai calando di segnale, ma un bel stai calando, bisogna fare quel lavoro immediatamente. Sì, il lavoro del capo non va bene, stai calando Giuseppe, ho paura che fai danno, stai calando di segnale, ti sta portando via tutto il segnale. Ok, finali. Cos'è, devi controllare? Torna a Battici, sì. Una via di Visì, una via di Risetti, una via di arrivi 8 e mezzo, l'indomani è torna a Santiago 5. Io ho capito, ma perché l'hai cambiato il pomello e quindi non lo vedi? Quel pomello è stato fatto piccolo per vedere gli scatti. Se tu le metti un pomellone di lavatrice, come cacchio fai a vedere gli scatti, non ho capito? Perché era piccolo, non lo vedeva. Gli ha messo un altro pomello. E cosa metti di cavi? Non so cosa fare. Adesso l'unico problema è cambiare sto cavo, perché ti sta portando via tutto il segnale, Giuseppe. Ti sta portando via tutto il segnale. Quindi fai passaggi corti e possibilmente ascolta e non parlare, perché ho paura che succeda danno lì. Sta portando via tutto il segnale, ha ragione Marco, cioè sei Santiago 7 qua neanche. Ieri 8 e mezzo al quinto scatto. A meno che non sia bagnata l'antenna, che sia piovendo. Valerio, sta piovendo da voi? E non è il finale, no, è che su sta uscendo col centrale, lui calda, non ce n'è attaccata. Sopra c'è lo stesso PL che c'è sotto, va. Tranquillo come che lo veda, senza calda. Sta uscendo solo col centrale, per quello che sta facendo così. Se c'ha 4 di stazionaria, non te l'ho detto? Con lineare attaccato sta modulando a 1,7 e 1,8. Se attacca lineare c'ha 4 di stazionaria. Lo sto dicendo, vorrei, allora non ho mai capito ieri. Quando abbiamo collegato il rosmetro ci siamo spaventati con Massimiliano, capite? C'ha 4 di stazionaria, perché quel cavo non va bene. E poi a prescindere dal cavo che possa andare bene o non va bene, con tutte le sue pelle, con tutte le sue cose sopra, lui sta uscendo senza calza, perché sotto il PL era completamente staccata la calza, stava uscendo solo col centrale, perché non ce la fanno, non, neanche lui lui ce l'ha fatta, se se l'ha fatto lui non ce l'ha fatta entrare bene la calza, secondo lui andava bene. Quelli da GBC quando hanno cambiato l'antenna, cavolo, non ne hanno neanche controllato, la calza è staccata su, capito? Perché se no non dovrebbe arrivare così, tranquillo. È salito. Dovete ad esempio Ducchendi. Giuseppe, comunque hai ragione Valerio, questo non è un rumore di vento, è un rumore di alternata. Il microfono dove ce l'hai sopra il frigo? Vedi, adesso è di nuovo 6 modulato e non 4. Non so cosa dirti Marco, non so cosa dirti. Comunque, io sarei restio a far intervenire questi qua. Se non sanno saldare un piede, questi di GBC là, se non nastrano nemmeno il cavo al palo e lo lasciano pendere, ci vuole un intervento, vabbè, però Giulio? Ok Marco, dobbiamo sapete che per un istante l'ho sentito anch'io, ma proprio basso, poi inizialmente l'avevo sentito, poi si era abbassato, non lo sentivo proprio per niente. Evidentemente c'è proprio un problema abbastanza grave lì da considerare, da vedere. Ok, dai, sto andando bene sempre, sì, quando non vado bene avvisatemi. Tu stai andando più che bene stai andando. Capito mi hai Gesù, quello è un rumore di alternata, non è un rumore di vento, la ragione Valerio, adesso me ne sono accorto con la radio grande, col cable, con l'altro non me ne accorgevo perché eri molto basso. Vieni avanti. Di nuovo si è abbassato. No, Giuseppe, vuoi un consiglio? Non trasmettere. Stai facendo da Santiago 8 a Santiago 5, da Santiago 8 a Santiago 5, ok? Non va bene, non va assolutamente bene. Cioè, bisogna fare lavoro, perché tu bruci tutto, stacca lineare e modula senza lineare, o se no ascolta solo e non parlare. Guarda, secondo me lineare sta soffrendo come una bestia. Santiago 7, non sei 8 e mezzo, devi essere 8 e mezzo. Posizione 4, sei calato a Santiago 5. Allora è lui che sta toccando. È passa da 4 a 6, da 6 a 4. No, non lo so. Io ti consiglio di ascoltare e non parlare, sino a quando non cambi il cavo, Giuseppe, perché se si sfascia quel lineare ce lo buttiamo via. Sei troppo messo male, mi dispiace Giuseppe, sei troppo messo male. Quel cavo è un casino, su, tu, a cavo, non ne hai, massa non ne hai, stai andando solo col polo centrale. E quindi automaticamente succede questa cosa, ok? Il segnale va e viene e ne sta risentendo tutto il lavoro che hai fatto all'interno, che hai fatto bene. Bisogna cambiare cavo, quindi non parlare, ascolta, chiama questi signori che vengano a cambiarti il cavo prima di farglielo attaccare all'antenna, assicurati che il piede sia saldato bene, poi per il resto salgo io e finisco io il lavoro. Avanti Vali. Se tu mi portavi la scala, adesso domani mattina sono impegnato per andare al patronato perché anche io ho un sacco di cose da fare, capito? Se noi ci organizziamo e tu mi porti la scala, io qua sono disposto anche a salire mercoledì e farglielo mercoledì, perché non si può andare avanti così. Allora, se c'è appuntamento con questi che aspetti a venerdì, ma non deve modulare perché è un casino, non deve modulare e soprattutto lì ci vuole un carrellino un pochino più grande per poter mettere il microfono in basso. Il microfono non va bene sopra la radio, è un casino, guarda, ma manicomio. Che prendi Giulio? Sì, ti sentiamo, avanti chi sei? Oh, un piccolo, proprio piccolo. Ma chi è questo? Vittorio è qua. Vittorio chi? Oh, allora io l'ho rassomigliato alla voce di Vittorio. Vittorio Monteoro. Vittorio Monteoro qua arriva a 9:20. Ormai non sta arrivando. No, io l'ho rassomigliato, non lo so, non sono sicuro. Adesso sono morto senza sentirlo. Avanti l'amico, chi sei? Dai, dacci anche il numero di scarpe. Io sento solo quello, ma non sento niente. Neanche io. Non lo so, io già lo sento. Già la sento, ma chi sei? Quello di Giuseppe di Ottava, sì. Ma monitor, non ne hai acceso, Marco? Sì, dovrebbe pararlo. Sono in ascolto, però. Quindi a me mi senti quello che ti dico? C'è il volume basso. Quindi come fai tu a tenerlo lì? Quindi ho sempre quel volume, lo squelch inserito, ma se devo dire qualcosa in duplex mi senti, no? Vai. Ma chi è Giulio? Giuseppe, dice che è una posta da bancare, da quelle parti lì. Dice che è un vecchio CB, si chiama Giuseppe, ma non ci ha detto niente. Se sei un vecchio CB avrai avuto un nominativo. Prova a darci il nominativo e vediamo un po' se ti riconosciamo. Perché ti sento solo io, a quanto sembra. Gli amici non ti sento, perché stai arrivando un po' basso. Avanti Giuseppe. Ehi, non ne vale la pena, secondo me. Ho capito Giuseppe, stai utilizzando l'antennino, ma appunto per quello che faccio un po' di fatica a sentirti, io ti sento, ma gli altri amici non ti sentono, non ti sentono proprio. Tu a loro già li senti, non ci sono dubbi, ma loro non sentono a te proprio perché stai usando questo antennino. Attrezzati che noi tutte le sere siamo sempre su questo canale. Canale 10, tutte le sere, attrezzati con l'antenna come si deve e così possiamo parlare a lungo tutte le sere. Se ti fa piacere. Ma lì munisci l'antenna, bro, perché non lo sento, ma io solo QRM sento, come che non stia parlando. Gli ho detto. Ma un vecchio CP Giuseppe, ma non sarà Giuseppe che ha bruciato tutto, no? Giuseppe bancario, magari. Ciao, non sono Vittorio, io sono Giulio. No, ero io che poc'anzi ti avevo scambiato per un'altra persona, ma in realtà no, adesso che ti ho ascoltato più volte non sei più Vittorio. Sì, Giuseppe, guarda, ripeto, il segnale è bassissimo, la radio è altrettanto bassa, gli amici non ti sento. Perciò cambiati l'antenna, mettiti un'antenna seria e così almeno tutte le sere ci trovi qua. Se tu hai voglia di parlare, se ti fa piacere, siamo tutte le sere qua, a quest'ora più o meno, ci siamo sempre su questo canale, ok Giuseppe? Io Giulio ti devo fare un paio di domande. Lo so Giuseppe, non hanno più niente, no, ma di polo non ne mettere nemmeno di polo, metti l'antenna come si deve, almeno ci sentiamo, col di polo lascia il tempo che trova, capito? No, ripiega sull'antenna, ci sono antenne che costano anche poco, guarda, intorno ai 35-40 euro ti compro un'antenna decente e così ti sento dappertutto, non solamente qua a Sassari, ma anche fuori da Sassari, capito? Per cui, vabbè, ciao Giuseppe, ci sentiamo le prossime eventualmente, dai. Ti aspettiamo, ok, ciao, avanti qua. Ok, se mi sta ascoltando lo saluto anch'io. Capito Marco quello che ti ho detto? Cosa stavo dicendo? Giulio, è davanti a Santa Cena il televisore, quello del salone grande, Grunding, non accende più. L'ho aperto, ma fuggibile io non ne ho visto dentro. L'ho richiuso, ho messo qua in cameretta. Dal tecnico, secondo te cos'è l'alimentatore di accensione, l'alimentatore di linea, come si chiama? Qualsiasi cosa può essere, il televisore non è che lo puoi sapere così, non è semplice, non lo so qua, ci sono tanti motivi per cui un televisore non accende. Però stavo ascoltando poc'anzi il consiglio che ti stava dando Marco, se te lo devi comprare nuovo dai retta a Marco, perché quelle marche lì, Samsung e l'altro LG, ce l'ho anch'io, ma sono favolosi tutti e due, guarda, hanno un'immagine perfetta, ma veramente perfetta, soprattutto quello grande, la 42 pollici, quando ci sono le partite è meraviglioso, guarda, sembra di stare allo stadio, per cui lascia perdere altre marche, altre cose che costano anche molto di più, non ti credere che abbiano un'immagine così tanto bella. La cosa, Samsung oppure LG, guarda, sono veramente ottimi televisori, io ce l'ho già da anni e vanno tutti bene, guarda, tutti. Buonasera. Ciao Antonio, buonasera. Sì, ma infatti ho messo le LG nel salone perché questo Grunding era di mia suocera, ha sempre funzionato, va se farà dello vroom. No, non ce l'ho anch'io le LG, ne ho due, uno in camera mia, in camera da letto mia, uno in camera da letto mia figlia. Ho preferito prendere quello mio perché lei magari quando rientra se ne va in camera sua, si accende la TV, quindi ho messo quello lì ed è LG. Quindi prenderò un altro LG. No, mi dispiace, questo era dei miei suoceri, capito? Se si può mettere a posto, lo metto a posto. Magari me lo metto qua in stanza, in sala radio, tolgo la staffa e lo attacco a lui. lunedì vediamo di portarlo al centro assistenza, lo faccio controllare perché mi dispiace, nuovo, vabbè, avanti Natali. Ehi, buonasera, va. Sono rientrato adesso. Rientrato adesso o ti stai alzando adesso? No, sono rientrato adesso, mi sono mangiato di andare. Ah, va bene, va bene, ok. Avanti Marco, riprendi, vai per Valerio, vai. Giuseppe rimane in stand by perché sennò fate giù lo danno. Avanti Marco. Via, ma era in diraglio Natalino. Ho ricevuto il tuo messaggio, ma ero ancora nel mondo dei sogni. Non l'ho sentito nemmeno squillare, pensa. Adesso attacco e facciamo le prove, dai. E intanto io, no, ma le prove deve venire, se lo sente anche Giulio, con l'antenna esterna, però Giulio, perché Natalino ha messo con l'antenna della macchina fuori, attaccato al palo dell'antenna del baracchino. Deve vedere se lo senti nella monitor, capito? Prova Natali, prova, dai, intanto nel frattempo attacco l'antenna esterna, vediamo un po' se riesco a sentirti. Attacca, tanto anche Marco lo sta attaccando. Ma Valerio mi sente Larghiero, Valerio mi senti? È propagazione Valerio. Ciao Valerione, ah, mi senti a me? Manco per le scatole, non due vatti non mi sento. No, ti ho sentito l'altra volta che eri a 5, ma due non ti senti. Ah, io prova di là, dai, io che poi vado a portare a andare a mangiare il cane un attimo. Prova io. Bianco per me vado a andare a mangiare il cane, dai, arrivo subito. Ehi, a poi mi dice la differenza tra prima e dopo. Ok, d'accordo. Vai a far mangiare il cane, dai. Che se no si abitua con l'orario di Marco, si abitua a Filippo. Ma tu mi hai sentito in LPD o Marco? Di fondo scala da me. Giuseppe, non parlare senza amplificatore perché le stazionarie sono ancora più alte. Con chi stai parlando? Ci sei Giulio? Sì, ci sono. Sì, ci sono, Marco. Mi stavi rispondendo tu nelle PD. Io ho salutato Gio Maria e TNR, mi ha risposto tu nelle PD e sentivo tutte e due, che quello c'ha l'ascolto in contemporanea, no? E così ho salutato, vedere come andava, eccetera. E gli ho detto che stavamo facendo delle prove, dai. Comunque Natalino è pari, PMR, LPD, sempre Santiago 3, è basso, E comunque prima arrivava così, adesso arriva uguale, non ha cambiato niente. Ok, ho capito Marco. E io in LPD quanto ti arrivo il segnale? Non ci ho badato, prova. Ecco qua, 1, 2, 3, prova, attento Marco, LPD. Ma hai parlato in 27, aspetta ma che libero qua. Santiago 2, però vedi, non è come Santiago 2 del baracchino, che senti fruscio, lì è Santiago 2 ma perfetto, non c'è fruscio, non c'è soffio sotto, è perfetto. E solo passo il segnale ma la ricezione è perfetta, radio 5 è perfetta. Insomma, tra di voi non vi sentite, dai. Non si sentono. Cioè, Natalino 3. Come spiegarti? No, te lo dico via. Chi è che sta mandando il tono? Tu? No, è una terza persona. Non è Giulio, non è Natalino. Se voi fate i cazzi suoi, forse era meglio. Ci stai ascoltando e andando a rompere scatole la gente che non sta dando fastidio a nessuno. Che ridei, tornate sui chiudi, Sono tutti qua che ascoltano come ti sposti, come fai una prova, vengono subito a cincischiare. Quindi ho capito, praticamente Giulio non lo sente Natalino. Con l'antenna PMR sì, però così è Giulio. Sì, con l'antenna PMR sì, infatti anche stasera presto stavo parlando anche con Antonello, con il PMR, addirittura da un'altra stanza e mi sentiva benissimo ugualmente. No, ho capito. Sappi Marco che il tono 1750 ce l'hanno i veicolari, non di certo i portati. importanti ce l'hanno il tono 1750. Ce l'hanno importanti lì. Che schiacci e sale il PTT e dà il tono. Come questo. Così. Sì, sì, come questo. Però questo è Y, cerca di capire. Ma infatti, perché è uguale al mio il tono, quello del portatile non è uguale a quello, perciò già siamo capiti. Questo è il tono 1750 di una radio amatoriale, lo vedi? L790, la Kenwood, base, naturalmente io piccolare non ne ho, quello è il tono 1750 di un base. E quello di poco fa era un tono 1750 di un VHF, VHF base. E beh, qualcuno avrà visto, come dire, oh, che ci fate qua? Noi siamo LPDisti, innocenti LPDisti. I radiatori sono al statuto secondario, quindi se il canale è occupato non devono entrare a dire no, non si può. Basta farsi fatti su ogni tanto qualcuno. Io faccio quello che mi piace come fanno quello che mi piace gli altri, senza naturalmente andare a interferire. Quello che fanno gli altri è molto importante, non andare a interferire. Lascia stare la gente santa pace, quello è importante. Vai Giulio. Ok. Io no, non ho sentito io, si vede che qua non arrivava, evidentemente, voi l'avete sentito, ma io no. E vabbè, dai, freghiamocene. Facciano quello che credono, non ce ne frega niente a noi. Infatti, non ci interessa proprio niente. Mi si può parlare e io parlo assieme a voi, quindi. Giusto a titolo sperimentale, no. E ho capito Marco, però lì deve arrivare lui con quell'antenna della macchina, capito? Perché è proprio adatta per quella frequenza. E c'è bene la mia. Vabbè, la mia è monobanda, quella è Natalino mi banda. La mia è una Comet, una vecchia Comet monobanda, non so. Eppure è nell'avanzare della finestra con la base magnetica sopra una piastra in ferro. Non ce n'è soluzione. E la soluzione già c'è, basta mettere una X30, vedi che la soluzione c'è, al posto di quella in punta. Ma la X30 potrebbe avere più stazionarie in 446. Io invece dico mettere in alto, mettere sempre sul palo, no? Una Diamond BC202, tarata proprio per... Si può fare addirittura a metà strada tra PMR e LPT, capito? 440 la tagli e ti fa l'uno e l'altro. Io continuo a dire che lui da lì può mettere il colore che piace e non va da nessuna parte, ok? Perché io ho l'antenna monobanda 430-440 della macchina nella finestra e ti faccio vedere che io attacco l'LPD e mi senti uguale come mi senti in PMR, mi senti uguale come mi senti in LPD. È la zona, la stiamo parlando di frequenza UHF, è la zona, punto e basta. Perché qua Natalino con l'antenna PMR non mi arriva a me bene, mi arriva bassissimo, capito? Arriva meglio nell'LPD che in PMR. No, aspetta però, quale sarebbe l'antenna PMR? In che senso? Che antenna è? Natali, lo chiedo a te. Quella tipo un bastone che è sull'antenna dove c'è questa qui. E ai piedi dell'antenna, di questa antenna. Marca e modello, che antenna è? È autocostruita? Di che marca è? Autocostruita è. Ma di quelle fatte in rame, saldate? No, è fatta in gomma, da. Ok. Invece l'altra sarebbe quella veicolare, la possiamo chiamare così? E quella da mettere sulla base, mi ho tolto la base magnetica, l'ho attaccata tramite una staffa al tubo. Eia, sempre quello il discorso, con 4 e 5 watt si va poco, se si aumentano si va molto di più, però sempre preferibile antenna sopra, più alta possibile e pochi watt, anziché molti e antenna bassa. Purtroppo lì. Nata lì la verità, sei in una posizione un po' infelice. Io comunque continuo a dire che se tu la metti nella base magnetica, in una piastra, funziona meglio di come la stai facendo funzionare tu. Ma che può fare massa? Se tu l'hai staccata, l'hai svitata dalla base magnetica, l'hai messo il connettore e il cavo diretto con l'antenna palo, con la staffa palo, come fa a fare massa con l'antenna? Io non capisco, non so. La mia è sulla base magnetica sua, è messa in piano sopra un pezzo di ferro e arriva da tutte le parti e non ha stazionaria zero. Quella lì secondo me non sta funzionando l'antenna. Quanto è grande la piastra? 20x20. No, solo. Aspetta. Buono. E la base magnetica quanto è grande? Tipo 9, 10, 8, quanto? È la media. Non so, adesso è il buio. Comunque l'hai vista proprio all'angolo della finestra, non ti dico male perché l'hai vista, te l'ho fatta vedere quella lì. Ed è sulla base magnetica, però non è che io l'ho smontata, no, è sulla base magnetica, perché sulla base magnetica facendo base su una piastra in ferro fa più massa, irradia meglio l'antenna. O sbaglio, Giulio? Stai sbagliando. Perché la massa la fa con la palla del tubo. Se non uscivo con la magnetica, non abbiamo provato stamattina, l'ho messa sulla magnetica e sulla piastra di ferro della cassaforte, un cazzo, non esce. La cassaforte dove? Interna? Su una piastra piastra in ferro l'ho messa nella guardanzale della finestra e non esce. Perché sei in un buco, sei dentro un bunker, tu per forza non esci. Ma dai, a me quell'antenna l'ha messa al posto di questa che c'ho io, se esce magari esce ancora più forte. Da lì tu non uscirai mai, se quell'antenna non la metti su non uscirai mai, ok? E non sto sbagliando. Se quelle antenne sono affilettature e devono lavorare su base magnetica, devono lavorare su base magnetica o su un piano di massa, non usci. Ok, per me, per conto mio, io le ho sempre fatte così gli esperimenti. Addirittura io questa antenna che ho nella finestra l'ho portata sopra da me c'è la mantovana che è stata rivestita con la lamiera, ok? Con tutta la lamiera, l'ho appoggiata lì in quella lamiera, l'ho attaccata al cavo di discesa dell'antenna, della direttiva VHF, l'ho attaccata lì con un barilotto. Sono sceso qui, Natalì, ho provato in UHF e citavo il ponte di Villanova Monteleone a fondo scala con un watt. Ma lo so, qua io sono in un buco, è inutile che noi ci mettiamo a dire, anzi è troppo quello che sto facendo. Infatti, il discorso è quello, che sei troppo coperto lì, se fossi stato fuori dal vicolo, capito, lato proprio strada dove c'è un poggiolo che puoi mettere una base magnetica sulla ringhiera, allora il discorso sarebbe diverso. E vabbè, pazienza, se va avanti così e ciccia, vai avanti Giulio, riprendi Giulio. Ok, stavo guardando un po' di gol della Juve. Allora, Owens si è aggregato alla squadra, per cui potrebbe giocare contro il Benevento, potrebbe giocare. Adesso vediamo domani cosa fa. La convocazione dei giocatori praticamente li ha convocati tutti, 19 mi sembra li ha convocati, per cui non si sa la formazione che manda in campo, non si sa. Comunque va bene così, dai. Siamo, a quanto sembra, stiamo incominciando ad entrare in piena forma, è quello che mi interessava, perché contro il Milan mi è piaciuta lo stesso, però deve migliorare ancora molto, deve migliorare soprattutto sulla fascia destra, perché Ristaine non è che abbia fatto grandi cose, però diciamo che non ha subito gol, la difesa si è salvata bene, dai. Vabbè, vediamo cosa fate domani, però. se no Marco Nattarino non mi frega niente. Ma no, Valeria c'è ancora? No, quindi Marco. Oh, io sto mangiando. Ah, stai mangiando? A parte io sto sempre mangiando. Magna. Riprendi Nattarino, riprendi. Aspetta che io metto breve, metto una 2x5 ottavi, tipo gli 30 ma è tarata apposta. Su un certo tetto con un paletto, vi do mattana, sono cavoli vostri. Quanto sono spaventato. Tu non hai rivali, tu lì non hai rivali, poi con l'antenna su non ne parliamo. Ti ho detto, quando avrò rivali userò l'LPD FMR, la direttiva monobanda UHF con 475H a 120 watt. Maria sta chiamando su PMR. Sì, guarda, un istante, termino. Lo sai che mi sale poco lo smitter? C'è qualcosa, forse c'è l'antenna appena appena inumidita, scende appena appena, sale appena appena meno, dai. Però stazionale non ce n'è. E dopo già facciamo una piccola comparazione, dai, per curiosità. Vabbè, non me lo dice a uscirmi negli occhi, no? Ma cosa c'è oggi? La lingua avete perso. Che strano questo portatile, Marco. Come si sposta da una frequenza all'altra tranquillamente. Adesso li sto sentendo sul PMR. Però io si sono sintonizzato in 4.33. Quando loro schiacciano la portante, la freccia salta da 4.33 a 4.46. Per cui li sento benissimo. Eia, ve l'avevo detto che uno ha attaccato un analizzatore professionale, un analizzatore d'antenna e alle antennini di quei portatili, no, ma anche quelli di marca, E pare che questi antennini dei portatili, io credevo lavorassero con due di stazionale massimo, no, lavorano con 3, 4, anche 5 di stazionali, lo sai, ma non per i stazionali. I finali, caspita, sono duri a morire. Ma quali portati? Tutti. Baofeng, Kenwood. Uno ha fatto una prova con un rig expert che ti fa vedere proprio la curva del rosso, no? E alle potenze, alle frequenze normali di lavoro tipo 145, 4.33, c'è una roba di 3, 4, 5 di stazionari pure. Non sono basse come credevo io. Ah, così è. Sì, lavorano con un bel stazionare quella tenini, poi sai, c'era vicino al viso, l'inclini, e quindi invece noi ci preoccupiamo quando ci abbiamo nei 5, eh? Quando ci abbiamo nei 5 lì ci preoccupiamo, invece non è niente un 5. Basta che sia sotto i 2 ed è tutto perfetto. Basta pensare che Pompugno ha utilizzato anche la Mantova una volta con portatevino, ti puoi immaginare? Ma lui fa queste cose, non lo so perché le fa. Anch'io c'ero, mi dice, sto usando la 5 ottavi. Non lo so perché le fa queste schifezze. Cioè, ce le ha le antenne per quelle frequenze, perché deve usare la Mantova? Ci avrà stazionari a 1000, avrà stazionari infinite. Sì, magari emette qualcosa, però così bruci tutto. Cos'è già fatto l'altro giorno io giù? Dimmi, mica. Ho svettato l'antenna del portatile, non del Voxion, e l'ho vittata con la rotatore, no, perché c'è al contrario, nell'antenna, nella base magica c'era una finestra. Lo santo riceveva bene, riceveva un bel bene, caspita si riceveva bene, solo che magari, capito, a trasmettere un po' più, però faccio la prova qualche giorno, adesso che sono a casa. Porto la base magnetica su, attacco l'antenna del Voxion, quella piccolina, no? Alla base magnetica la porto sul tetto a vedere come funziona. Ok. Indubbiamente con l'antenna di fuori esterna va molto meglio anche in ricezione, certo. Ma sapete, io ne ho un altro di portatilino, no? Ho provato a mettere l'antenna, trasmette ma non riceve con l'antenna esterna. Se invece metto il gomino suo, tranquillo, modulo, anche poc'anzi stavo parlando con Antonello, per dire, no? invece in ricezione con l'antenna esterna non riceve assolutamente niente. Come mai? Non lo so, la caratteristica dell'apparecchietto, so che è così. Siccome questo tipo di portatile no, l'avevano comprato quando era stato ordinato da fuori, l'aveva comprato una ditta, credo, che aveva degli operai, no? E ognuno di loro aveva il suo portatile e ci eravamo informati appunto da questo, e aveva detto che lui li usava benissimo senza nessun problema di registrazione, perché l'avevamo detto, come mai l'antenna? No, perché dice questo, Marco, il telefono suona. In antenna non hanno registrazione, questo infatti è così, non ha registrazione, trasmette molto bene, però non riceve assolutamente niente. Aspetta, giù che sono al telefono, mi sembra una cosa strana comunque, aspetta un attimo, riprendi Natalia. Eia. Dipende da che apparecchio è. È uno di quei portatili che ho io stesso, ne ho due, no? Per cui non va, Natalia, non va, in registrazione con l'antenna esterna non va. Io l'avevo provata così per il gusto di sentire se si sentiva meglio, invece non si sente proprio niente, come se fosse spento, uguale, mentre invece senza l'antenna va benissimo, con l'antennino suo è formidabile. Magari manda in fatturazione l'antenna, manda in fatturazione lo stadio di ricezione. È quello che ho pensato anch'io, infatti manda in fatturazione lo stadio ricevente, certo, in effetti è così. Evidentemente con l'antenna esterna prende troppo segnale ed ecco che va in tilt. Sarà sicuramente così, almeno credo che sia così. Questo è un pensiero che ho avuto anch'io. Confermo. Io ho avuto un portatile che era terrificante, con antennino ancora va bene, ma appena attaccato in qualsiasi antenna esterna, pum, battimento zero, era proprio tre. Invece l'UV5R Plus non è così, quello è molto buono, prende tutto, non viene assordato, ma quello sai qual era? Il TYT THUF9, quello proprio appena mettevi una minima antenna esterna che si fosse veicolare, fosse proprio zero, battimento zero. E infatti come succede con questo che ho io? Ripeto, funziona benissimo, col suo antennino funziona benissimo, problemi non ce ne sono, anche a una certa distanza va benissimo, perché mi ricordo che avevo parlato tempo fa anche con Gio Maria, io ce l'avevo in macchina, quando ho fatto tutto il giro di Sassari e mi sentiva sempre. Arrivo a casa, incuriosito, vediamo un po', metto l'antenna, lo dovrei sentire ancora più forte. Niente, lui mi sentiva a me, però io non lo sentivo a lui. Andava in saturazione la parte ricevente. E qual è quella ragione? Quello che dici tu è quello giallino arancione? No, uno nero, tutto nero è. Non lo so che marca è, aspetta che guardo se riesco a vedere che marca è. È perché io mi ricordo che quell'arancione funziona con l'antenna esterna. Guarda, non lo so, c'è scritto solamente Baofeng e basta, non c'è altro, non c'è nessuna sigla, non c'è niente. E dunque non so cosa dire. Non so cosa dire, Marco, perché non c'è nessun'altra sigla, c'è scritto solo Baofeng e basta. Allora Giulio, mandami una foto dettagliata, che poi ti dico qual è. Però ferma, una bella foto a fuoco, Adesso io stacco e voglio lavorare nelle stesse identiche condizioni di Giulio. Quindi cambio orario. Abbiate pazienza, vai Claudio. Come sta lavorando, perché Giulio? No, vuole fare una prova, vuole fare col portatile, niente di più. Tanto è vero, questo ha un antennino, sarà lungo 6 cm, 7 cm, non di più. Anche se io pure ne ho messo un altro, però l'antennino originale, Marco, è 6-7 cm, non di più. Non così, è corto, cortissimo, guarda. Sì, allora ti manda lo stadio finale, quello di ricezione in saturazione, non funziona. Se li attacchi l'antenna esterna. Quello arancione funziona. Sì, quello funziona, quello già funziona, non ci sono problemi. Ma questo proprio niente da fare, guarda, niente. Aspetta che tocco la batteria, vediamo se c'è scritto qualcosa all'interno, ma non credo, adesso vedo. Marco, guarda, all'interno c'è anche un modello, ti posso dare anche la sigla del modello. Eccomi un attimino, c'è silenzio al PMR, allora, sì, amplificazione a 6, ecco qua, dimmi il modello, poi vi dico come sto uscendo, dai. Scrivitelo, dai, modello BF, ripeto, BF 888S. BF888S. Lo conosco, sì, l'ho avuto anch'io, dai. Allora, adesso sto uscendo con il Superstar 3009 ALC a manetta, 5 watt come Giulio, e l'MB più 5 messo a 6. Mi, Claudio, tu che hai l'orecchio, vedi un po' come va. Il tono è a 3 perché mi dite sempre che sono con toni alti io. Aspetta. Vabbè, all'uomo non si occupa di denti. Stavo buttando e parlando al muro, dai, stavo mettendo la batteria di nuovo. Sta uscendo benissimo, ottimo. Adesso io lo svito e questo non funziona. Non è più 5, però mi stavo segnando, Santiago 9, questo svito di questo baraccino di 160. Da te com'è? Senza potenza, sempre 5 watt, io come l'ho regolato poco fa, un'ora fa già, e comunque sta sempre andando bene, confermi? Aspetta, sì, un attimo che è entrato Claudio. Ah, è diversa la timbrica, Claudio. Guarda, il tono è a 3. Io non so come pareggiarlo a quello dell'MB più 4, Devi chiudere tutti i toni, chiudi i toni, ricordati di mettertelo di nuovo a 3, chiudi. E quanto lo metto? A 0. Tono a 0. Così è cupo però, è troppo cupo, me ne accorgo. E così stai uscendo come sta uscendo Giulio, solo che Giulio la modulazione è leggermente più chiara della tua, c'ha più acuti. Quindi tu per correggere, per arrivare alla pari di Giulio, devi metterla a 3. Però mettendo la 3 c'hai più acuti tu. Eia, proviamo a 2, ecco qua, proviamo a 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vedi un po', vabbè, no, era per sapere come, se eravamo equivalenti, grosso modo, dai. No, superiore la tua, c'ha più acuti, mettilo di nuovo a 3, metti. Che tu a 2 sei troppo cupo, mentre Giulio va bene così com'è. Eia. Anzi, ti dirò di più, che io il tono l'ho sempre usato a 5. A 5, un tono medio. Però in effetti poi non so rapportato all'MB più 4 come sono tarati, capito? Non si può sapere, ci sono strumenti professionali, poi anche la voce è diversa, giustamente. No, siete equivalenti, però sono un po' diverse. Capito? Sono un po' diverse. Cosa c'hanno? Mi sa che io stacco però, perché stamattina l'ho fatto un bel presto il cane, forse ha bisogno di uscire, dai. Mi allontano un attimo e ci sentiamo fra un quarto d'ora, dai. Un quarto d'ora, 20 minuti ritorno, ok? Eia. E tu Giulio, come mi ascolti? Come va? Abbastanza bene, guarda un po'. Lo stesso condizioni tue, 5 watt, LC aperto ed MB più, però più 5 questo. Sì, va benissimo Marco, ha solamente una tonalità un pochino con toni leggermente più alti rispetto a quello che stavi usando prima, ma va benissimo, è abbastanza chiaro, perfetto, di lusso. Se poi io voglio ti posso dare un pochino di bassi, basta che abbassi il coso, come si chiama? Il tono, posso abbassare il tono ed ecco che ti dicevo con dei toni un po' più bassi, capito? Però sempre molto chiari, molto belli. Eia, guarda, l'ho abbassato a 2, tono a 2, mic gain dello ZG a 6 come il tuo, ecco qua. Eia. Era per sapere così se c'era. Anche tu Natalino, mi intervieni, dimmi come ti sembra. spero di non saturare per via della vicinanza. No, ragazzi, non stai saturando, va benissimo. Va benissimo così, Marco. Ascolta, dimmi il segnale come ti segna a te con lo smitter. A me questo mi sta segnando l'ovo, però non è fedele. Non faccio caso, però come segnale mi sta segnando, l'ovo è proprio spaccato. E io lì da te. 9 più 15 pieno. Ok, allora dovrei anche regolare questo smitter. Vabbè, adesso ormai è chiuso. Vabbè, comunque ormai l'ho chiuso, a riaprirlo non ne ho voglia. Dovrei toccare il coso, il VR8 mi sembra, o VR1, non me lo ricordo bene, ma già ci hanno segnati tutti i riferimenti, quale cosa devo toccare, quale resistenza devo toccare, VR1 o VR8, non me lo ricordo, la verità, ma già ce l'ho segnato, non posso sbagliare. Eia. Sì, comunque è vero, questo microfono io lo usavo sempre a 5, no? Toni medi, va da 0 a 10, io mettevo un tono medio, però credo hai detto che è alta, con la mia voce è molto alta. Per cui me li avevo fatti mettere a 2 l'altra volta, addirittura 1 me l'avevo fatto mettere, per avere più toni bassi, ma va bene, dai. Guarda, sai come ho fatto io, Giulio? Allora, io... quando ricevevo uno col Kenwood Santiago 9, no? Per regolare almeno il 9, tipo Luigi, Vulcano, no? Da ottava. Allora aprivo l'apparato e regolavo il segnale di Luigi uguale a 9, come quello del Kenwood. Così almeno il 9 era preciso. Poi naturalmente i segnali sotto il 9 li falsa. Adesso ti faccio un paragone. Per esempio, Santiago 1 di questo baracchino corrisponde a Santiago 5, quindi Santiago 2 al 6, Santiago 3 al 7, Santiago 5 corrisponde a 8, proprio Santiago 8 del Kenwood, quindi ho dovuto reimparare a leggere questa scala, perché davo segnali troppo bassi, falsati, capito? E quindi adesso bene o male ho imparato a interpretarlo, dai. Quindi quando Giuseppe mi arrivava 6 modulato, qui segnava 2, capito? 2, però in realtà è un vero Santiago 6. Ok, ho capito, sì. Va bene, tutto si tratta di fare pratica per tutte le cose. Sì, no, io non ci ho fatto mai caso di questo segnale con quello del Kenwood, assolutamente. Non mi sono interessato, dai. Questo era così e così l'ho lasciato e per cui va bene. Adesso sono contento che sono riuscito a regolarlo, che non satura più e così almeno non ci saranno problemi, sperando sempre che quando ho scalda funzioni sempre alla stessa maniera, ma io lo sto anche toccando qua, non è tiepido, appena tiepido, proprio tiepido, per cui non lo so, penso che vada bene. Nathalie, tu com'è che mi senti adesso in radio? Chiara oppure saturo? No, chiara. Ok, perché l'ho abbassato, prima ne dava 8 watt, l'ho abbassato a 5, l'ho abbassato, ho fatto un piccolo ritocchino, dunque c'era Claudio e Marco e me l'hanno fatto regolare a questa posizione come adesso, anche il microfono così, a questa posizione come adesso, l'MB4 sto usando. Sì, va benissimo. Ok, andare, dai. Va bene così, le 7:20, caspita, che brutto l'orario invernale, che brutto, bacca di dai, il rinco già buio. Eia, quello è vero. Eia. Sì, guarda, l'88S l'ho avuto io, poi l'avevo regalato a Pomponio, lui l'ha regalato a un'altra persona, quest'altra persona l'ha regalato a un'altra, e si fanno un bel giri. E Pomponio da poco ne ha ordinati 2, anzi non li ha ordinati, li ha comprati dal cinese, 2 gliel'ha fatti pagare 37 euro, quindi poco, 37 diviso 2 adesso so sia 17 euro e mezzo l'uno, così, e glieli ho programmati io col computer. Ok, no, questo qui mi sembra che l'avevo parlato, se ricordo bene, 21 euro, una cosa del genere. Ne avevamo fatto arrivare tre, ne avevamo fatto arrivare prima, no? E poi non è andato bene nemmeno uno. Diciamo, cioè, vanno bene se li usi così, con l'antennino suo va bene, non ci sono problemi. Non è che va anche poco avanti, dovrebbe darne 5, sempre se li dà. Così c'è scritto, è così, non lo so, boh, Marco. No, non li dà, l'ho controllato io con rosmetro, con wattmetro, ne dà dai 2 ai 3, dipende da dove lo tari, dai 2 ai 3, 2 e mezzo, 3 insomma. Io a Pomponio gli ho messo 8 canali PMR e gli altri 8 canali LPD, quindi c'è anche la monitor dove stiamo parlando noi. Ok, ho capito, sì, certo. Sì, ma anche questo doveva essere così, poi chi me l'ha regolato non c'è stato capace a regolarlo bene, per cui, perché se no dovrebbe essere scrambrelato, dovrebbe essere, capito? 8 canali normali e 8 scrambrelati dovevano essere, invece non c'è stato capace col computer a metterlo a posto e dunque non è rimasto così normalissimo. Sì, poi lo scrambler non funziona. Un venditore l'ha scritto, anche se c'è la funzione scrambler, non funziona su quell'apparato. Non lo so perché. Avanti chi chiama? Sento modulazioni sotto. Chi è che chiama? Ah, no, stanno parlando Alghero. Stanno parlando Alghero. Valerio, mi copi? Ehi, a Valerio, siccome sentivo voci sotto, credevo che qualcuno stesse chiamando qua. Vabbè, sì, continuate, non è che problemi non ce ne sono, dai. Giulia arriva forte, arriva a 9.15 pieno qui, quindi continuate pure, dai. Poi già, se volete intervenire, noi stavamo cercando una regolazione buona per questo MB più 5 e per la mia voce bisogna abbassare il tono, perché la mia voce è alta di tono. E come ti sembra a te? Abbastanza realistica? Eia, grazie Valerio del controllo, dai. Sì, il tono adesso, questo è un MB più 5, il tono è a 2 e l'amplificazione è a 6, 6 di amplificazione, dai. È buono così, dai. Io non sono abituato a quello da tavolo, ma ogni tanto l'ho fatto lavorare, se no la roba ferma si rovina, cappa. Vai Natalie. Natalino. Sì, riprendo io, dai, Natalino si vede che è impegnato. Beh, lo sai che Valerio non arriva qua se non attacca, lo sai. Non ti credere che evidentemente dipende da me, dalla mia antenna che è troppo bassa, o Marco. Per cui sarà anche per quello il fatto che non senta Giuseppe Larghero, proprio perché ho l'antenna in basso, questo di polo è basso, basso, basso. Però è strano, perché quando c'è preparazione, vabbè, è tutto un altro discorso. Ma non ho parlato anche con l'estero, ti puoi immaginare, non solo con l'Italia, ma addirittura con il Portogallo, con la Spagna, con la Germania. Insomma, non so cosa dirti, è strana veramente alle volte la frequenza. Eia. E poi sai, dipende dove ho orientato di po'. Ah no, è verticale, mi hai detto, è verticale, sì. Eia, volevo chiedere, Valerio? Beh, ti è piaciuta il terrazzo, sì. Come vedi, io da sud-est e fino a sud-est, sud, sud-ovest, ovest, fino a nord-ovest è tutto aperto, vedi l'orizzonte. E tu hai detto che hai visto addirittura Monte Doglia, così è? Sì, lì sono proprio aperto, anche Stintino lo stesso, perché a nord-ovest, guarda, ti dico che la mia antenna vede la zona industriale di Porto Torres, la zona industriale, però la zona abitativa è coperta un po' dai palazzi, capito? Per cui Porto Torres non è ottimale, però vedi, sono chiuso per Sorso, sono chiuso per tutta la zona est, da nord, nord-est, est, sono chiuso, proprio la penisola italiana io ce l'ho chiusa. Sì, oh, Franco arriva 9, Franco, la associo quando è attaccato, sì, sì, ci parlo tranquillamente, però vedi là purtroppo è tutto in salita, sai, tutto in salita, dopo di me è tutto a salire, è proprio sale, sale, sale un bel, sale molto, molto, molto, però vabbè, DX riesce a farli comunque, magari mettendo linea retto l'accento, ma i DX in banda laterale li puoi fare, e a voglia se si fanno, tutta Italia, dal nord al sud si riesce a fare, però se fossi a portata ottica sarebbe ancora migliore. Sì, sì, sì, c'è via Prunicella che sale, via Gorizia che sale, capito? Quindi io da via Savoia in poi sono più coperto, tende tutto a salire, ma sale un bel pure, eh? E quindi vabbè, però bene o male i DX vedo che si riescono a fare ugualmente, dai, in estate naturalmente, in estate. Ok, riprendi Giulio, dai. Ok. E così Valeri, guarda, la frequenza monitor in banda laterale è 27.555, e quando c'è propagazione tu vai in quella frequenza, poi magari si puoi spostare a 27.500, 27.545, 527.565, cioè tutte queste frequenze qua, però la frequenza monitor per quello di fuori è 27.555, banda laterale USB. Eia, lì chiamano un bel. Ah, conta una cosa Giulio, che noi adesso siamo nella zona solare d'ombra, il ciclo solare è ogni 11 anni, no? E noi siamo purtroppo nella zona d'ombra. Adesso ti dico, quando il sole sarà più attivo, l'attività solare aumenterà. E quindi avremo DX molto migliori, aspetta che guardo, Ok. Mi hai capito, Valerio, quello che ho detto? Valerio, senti Giulio? Lo so, nemmeno io ti sento, se non attacchi non ti sento nemmeno io, Valerio. No, stavo dicendo che la frequenza monitor per la banda laterale USB è 27.555, ripeto, 27.555, frequenza monitor, banda laterale, per quando c'è propagazione, dai. Ehi, allora, guarda, qua c'è, allora, ciclo undecennale dell'attività solare, ogni 11 anni, e quindi fra qualche anno, non so quanto, fra qualche anno avremo il picco massimo e ci permetterà di fare dei DX veramente belli, quindi preparatevi. Sì, fra qualche anno quanto? Ogni quanti anni è questo ciclo? 11 anni? Sì, ogni 11 anni. Figurati, allora ne abbiamo da aspettare. Però il prossimo non si sa quando è qua, la Sardegna. No, no, è tutto il mondo, tutto il mondo. Però sto cercando la data, l'ultima data, non riesco a trovarla. Aspetta. Boh. Mannaggia, non, sto cercando un grafico, dai, un attimo. Ok. Sì, sì, ho capito. Vabbè, dai. Avanti, Natali. Speriamo di averla piazzata per allora l'antenna. Natali, certo, ci va che è. Caspita, quando allora non ha piazzato l'antenna, già andiamo bene. Dai, mi sposto un attimino, dai. Ehi, Giulio. Che qua la ricerca è un macello, È un macello. Ehi, Valerio. Natalinus. Oh, yeah. Mamma mia, queste antenne sono un casino. Sono un casino. Ti avevo chiesto, ma tu non avevi una casa al monte? Ma chissà, bene, tuo fratello, ma c'è un appartamento libero, così è? Ah, dove dovevo abitare io, ci abita mio fratello, più piccolo, perché si è separato dalla moglie. È sempre in campagna, capito? Ah, ho capito, dai. Vabbè. Magari la posizione sarebbe stata migliore, ma se è occupato è inutile. Infatti. Eccomi, eccomi. Zio Claudio. Come te la fammi vedere a fanno, Filippo? scende. C'è qui ti scattica. Perché mi buona bandiera? Altarino, sono stato sopra a vedere come si fa, c'è una bomba ci ha. Da tutte le parti, 27, in V, in U, in HF, da tutti gli occhi. Bella zona quella, è vero anche organizzato bene. Aspetta che mi sta chiamando. Andiamo bene, Natalino. E cosa? Dice il minimo del ciclo solare sarà tra il 2019 e il 2020, il minimo, quindi siamo nel nulla, e quindi dovremo aspettare dopo il 2020 altri 5 anni perché il ciclo solare diventi di nuovo forte. Bisogna vedere se sono vivo allora, manco ne piazza antenna. Bisogna vedere se sono vivo io anche. E spesso leggendo, mi vediamo. Allora solo bla bla bla. Minimo solare, allora. Non ci saranno più macchie solari. Andiamo via via scemando in numero e dimensioni fino al 2019-2020, quando presumibile si toccherà il minimo solare. E quindi bisogna aspettare altri 5 anni e mezzo, quindi fai 2020. Nel 2025-2026 ci sarà il massimo del picco solare, capito? Con le IDX fantastici, ma anche dalla macchina mia, Natalino. Ma io non avrò né la patente, sarò morto. E quindi che IDX vuoi fare? Oh, e adesso avrai 65-66 anni al massimo, dai. Bisogna vedere se ci arrivo. No, già ci arrivi? Ci mancherebbe, dai. Ecco qua. Allora. Sì, 2020 sarà proprio il minimo solare, invece il picco di massimo sole sarà nel 2025, sì, come avevo detto io, 2025. Invece ce n'è stato uno eccezionale pochi anni fa. Dunque 2005, 10, 15, 20, 5. Quindi nel 2011 c'è stato un eccezionale picco solare, bello forte, e io purtroppo mi ricordo qualcosa, ma arrivavano segnali allucinanti, Nathalie, anche camionisti in macchina, a scale di ciocca, 9 più 30, una cosa assurda. Ecco perché è molto importante il ciclo solare. Noi adesso siamo proprio nella parte più bassa, proprio dove c'è poca propagazione, dai. Poi nell'80, aspetta, 80, io sono entrato nell'84 e ancora era buona la propagazione, ancora era buona. Proprio segnaloni, c'avevi la propagazione fissa a Santiago 9 e c'avevo anche un antennino di cacca, una gran plena avevo, eppure arrivava il QRM Santiago 9, cioè la propagazione tutta assieme. Vabbè, poi lì c'era anche molta gente, no? E vabbè, rassegniamoci, parliamo a Sassari tra di noi. Pazienza, dai. Bisognava sfruttarla meglio negli anni passati. Purtroppo io ero senza antenna, oppure avevo quella cacca di... No, non ne avevo antenna all'epoca, hai ragione. Oh, comunque DX ne puoi fare lo stesso, perché ci sono giornate sporadiche, no, in primavera o in autunno, dove arriva la propagazione a bomba, capito? Dalla primavera, estate, autunno, ci sono giorni che la propagazione è buona, però dura di meno, cioè arriva un segnale e poi sparisce, capito? Invece con il ciclo solare più alto dovrebbe essere più costante, tutto lì. Mi ricordo che mi faceva porco io i tempi passati. C'era Luca che mi perseguitava, però non capiva nulla perché parlavo in inglese. Cosa? A che ora Luca Valmonte ha detto? Mi perseguitava, però non capiva. capiva nulla lui perché io parlavo in inglese. E io lo so che ben organizzato, e vedevo in pazienza, è andata così. Ehi Claudio, stavamo parlando del picco solare, tu già lo sai, sì, ogni 11 anni c'è una propagazione particolarmente alta e noi adesso siamo invece nella parte più bassa, siamo in un buco nero adesso siamo, dove la propagazione raggiunge i livelli più bassi proprio, il 27 dico, poi può influire anche le bande amatoriali, può darsi. Ma guarda, non c'è propagazione 27 in 10 metri, ci sono sempre delle belle aperture, poi io da altre parti non è che mi sposto molto. Guarda, il prossimo picco solare sarà nel 2025. Sì, sono già morto io. Dalle, e sei più giovane Natalino. Anche Natalino ha detto così, sarò già morto. Ma perché? Siete ancora, non siete mica ottantenni, no? Ehi, cosa c'entra? No, io già sono a rischio, sono in pensione, quindi chi va in pensione muore presto. Perché non ha altri hobby, se tu trovi degli hobby divertenti, campi 100 anni. Ciao Elio. Lui più ma Eugia, che va in pensione poi muore presto, capito? Ma quelli che vanno in pensione adesso, per quelli che sono andati in pensione e che non hanno mai fatto niente, come ne sento tanti in radio, che si vanta di aver lavorato una vita e non ha fatto mai nulla, sono andato in pensione a 30 anni di travaglio, chi ci sono ancora vivi? E l'INPS, secondo me l'INPS vi avvelena l'acqua, l'aria, in modo che crepate presto e pensione non ne pagano, Allora, ho anche sconfinato io, mi sento a lavorare 16 anni, vedi. Si vanta in pensione, sotto in pensione con 25 anni di travaglio, col culo che hanno avuto dalla legge vecchia, perché è bel piuma. Benino, così, riprova Elio. Stai usando quel baracchino? Dalla timbrica sembrava quello. Il 5005 Intec, alias MAS 5000DX, alias Anitone ATC, quel baracchino l'hanno fatto in tutto il mondo con roba di 12 marche diverse. Cos'è che era marcato anche Kenwood per la Russia? Rientro il 20 di novembre e fino al 30 e poi basta e poi abbiamo chiuso, vediamo. Siamo arrivati, abbiamo gelato sconfinato di 2 anni, di più di due, oltre i 42 anni. Io pensavo di aver iniziato nell'81 e invece ho iniziato nel 76. Mi è arrivata la cosa dell'Inps, prima dal 16, mi pare, il 18 febbraio del 76, quindi ho raggiunto il massimo oramai, basta, finito, Elio, abbiamo gelato, facciamo i pensionati, capito? Sai, ci sta bene lì che c'è la batteria, che puoi mettere la batteria, un MC80, che è preamplificato, capito? Non so se c'è la sede sotto l'80, non me lo ricordo, non mi pare di sì, sono gli ambienti esterna, con quel baracchino, con varie connessioni, poi l'incezione e trasmissione usi un 80, lo so quanto va bene. Mi sembra che ce l'avevi l'MC80, però vabbè, se c'è la batteria interna, la sede della batteria, non mi ricordo. non ricordo, se l'80 o l'85 riesco a mettere la batteria blu, non me la metto, ma in ogni caso si mette una batteria a 9 volt esterna, capito? Funziona molto bene con quel baracchino, io avevo il presidente Lincoln con l'MC60, con l'aveva fatto Massimiliano Archimede, però con l'adattatore, era una bomba, era pochi scioglie. Il 80 va bene se c'è la sede della batteria, il 80 col connettore a 4 va bene anche i baracchini senza usare down e up, senza niente. Natalio, senti io, sì. Però non so se sente lui a me, che sono con due watt. Ah, è vero, è quella, sì. Allora puoi attaccare, tranne gli 8 volts, puoi attaccare anche il down e up e fai ricezione e trasmissione al down e up. Funziona bene, mi pare che l'avevo già provato io con l'adattatore. Ho preso il link l'80 e il 60. Andavano molto molto bene, capito? Vai Marco. Eia. Volevo dirti Claudio che ho fatto come avevi detto, mi sono deciso, ho pulito esternamente, prima l'ho pulito esternamente quell'alimentatore switching, pulito bene col pennellino perché era uno schifo, manco per chi lo vedeva, poi l'ho aperto, c'era polvere anche dentro, per cui con un pennellino ho pulito bene tutto. E la ventolina ho pulito quello che potevo pulire, perché sai, viene male pulire le ventole, e ho spruzzato al centro, no, dove ruota il CRC, quello asciutto, quello che si secca, si asciuga subito, e la ventola adesso è un bijou, silenziosissima, dimmi se si sente, guarda, si sente più la strada. Sì, sentite la motocarro? No, non si sente, non la sento io. Prima sentiva dron. Hai fatto bene, anch'io a volte, adesso una volta. Adesso che sono in ferie mi dedico il miglioramento a te questi giorni, adesso devo liberarmi da queste rotture di scatto, domani patronato, poi devo andare all'Inps. Mamma mia, che rotture. Va bene. E tu vedi cosa mi racconti, niente di nuovo. Non ho più sentito Stefano, devo chiamarlo perché si è finita la stagione, si è rientrato, boh. Ciao, riprendi Natali. Ho una volta lì, l'hai più avuto quel disturbo di QRM elettrico a Santiago Longo? A dire la verità no, comunque sto mangiando per un cane che ha pazienza. L'ho sentito. Ehi, dagli qualcosa, poverino. Bene, Claudio, molto bene. Sì, io mi volevo togliere questo sfizio, prendere questa, come si chiama, questa Comet BC202, che è come l'X30 però è di alluminio ed è da tarare, è fatto in due stili di alluminio, due parti, una bobina centrale annegata nella plastica. Tu la tari dove vuoi, 446 oppure fai 440 e ti fa PMR LPT, ma te lo fa bene perché è tarata proprio con una via di mezzo, oppure l'una e l'altra, capito? E la volevo piazzare su un certo terrazzo, non questo, un altro terrazzo di nostra proprietà. E ogni tanto, quando non ho da fare, a mezza serata, salgo lì e modulo da lì, capito? E lì prende molto, vabbè, dove prendere bene, più basso di qua comunque, il terrazzo è più basso di qua, però sai, pur sempre un'antenna sul tetto, sul terrazzo, e quindi dovrebbe imbattere abbastanza. Ok, riprendi Claudio. Dammi un minuto, io ho l'80 e l'85 entro la macchina. Adesso sono guardato, proprio la macchina, c'ho l'80 nuovo, di pacca, neanche il connettore c'ha. Invece l'85 c'ha il connettore, adesso lo proviamo a vedere come va a vedere qua nel coso, nel gimbal, aspetta. Ah, l'MC, ehi, prova. 80 e l'85, tutte e due ce li ho, ma roba da matti. Aspetta che sta col 60, guarda, era molto che non lo provo. Non so se va, se non va, se la radio è buona, non è buona. Aspetta. Eia. Anche bene. Esce anche bene. 1, 2, 3, 4, prova radio, ce l'ho a 5 col parametrico, vediamo mettendo il parametrico. Poi lì c'è il compressore parametrico, ora, ancora più forte, no? Via, è bella anche questa, Sembra il 60. Esce bene. Ogni tanto ho qualche scarichetta, magari il PTT che non lavora mai, appena appena di ossido, ma niente di che, dai. Adesso ho messo il lock. Ora. Com'è? Dammi una reazione, dai, da 1 a 10, così lo regolo, lo tengo. Uso anche questo, dai. Hai messo il lock, ma sentivo come facevi, ora sentivo un po' di scarichette, o stavo spingendo troppo, non lo so. E va rodato un po', va disossidato il PTT, che ne so, magari anche i contattini della capsula, se non è saldata. No, vabbè, questo è... sarà quando è fermo. Questo è l'85, peccato l'80 non c'è il connettore, capite? Anche adesso sta facendo le scariche. No, ora no. Guarda a vedere, così facendo le scariche sta. No, perfetto. Forse come non lo usavo, vabbè, no, quello già non è un problema, lo apro e do una passata di quel... Ah, bello? Bello. Fammelo sentire. Aspetta, prova. avanzo mi, e quanto lo vuoi forte? Prova a alzare il mic gain, non so. No, sollevo, guarda, ce l'ho a 2, il parametro con il verde, lo porto a 6, a 4, dai. Così a 4, bene va, o troppo forte? No, no, no, troppo forte no, no, ha fatto scarichette come l'hai toccato, secondo me il parametrico, cos'è, un potenziometro o uno slider? No, sono gli slider del, questo c'è il compressore parametrico, capito, equalizzazione, e il MC85 c'è l'equalizzatore parametrico. Adesso l'ho equalizzato, 5,5, bene va. Benissimo, Natalino ci sei? Mi senti Claudio, se va bene. Bene va Natalino, questo è l'MC85, posso anche gridare, non strappa, va bene. Non ci picchiere, non ti immaginerci, da tanto non lo uso. Adesso sentendo Elio, c'ho l'80 che praticamente non ha neanche il coso, il come si chiama, il connettore. Mentre questo invece c'è il connettore Kimball, hai capito? Già va bene, già va bene. Sai che sta fischiando sulla monitor? Qualcuno di qua? No, non credo, non lo so. È un segnalino, qualcuno stava fischiando o premendo. O tutte e due, dai. Aspetta, ecco qua, adesso ho messo bene l'MB. Comunque è bello l'MB più 5, proprio bello. Alla faccia degli americani che dicevano che usciva in modo orribile, secondo la testa loro. Orribile uscirà la Satic, casomai. Perché stavo pulendo il coso? No, no, va bene, va bene. Io ce l'ho. C'ho 2 MB più 5 più 4 regalato a Giuseppe, c'ho 2 MB più 5 e ti dico che vanno molto bene. Eia, a Giuseppe va chi? Giuseppe di Alghero? Sì, sì, è Giuseppe di Alghero, vatti. Adesso, una volta che poi terminato e fatto tutto il lavoro, vediamo un po'. Guarda, l'ho aumentato ancora, troppo alto così. Oh, bella bella, bella, bella. Come mai? Io l'ho sempre odiato l'MC85, aspetta, va bene, e lui piace, è troppo ingombrante Marco, è una rottura di balle, mamma mia quanto è grande sto microfono, ti prende il posto di 2 MC60, Mandami una foto. Ehi, aspetta, la faccio. Ehi, che bello il blocco dei tasti, ah, Natalì. Posso pippare, fare pippe e parlare allo stesso momento. Tu sì che sei un pippone. Un pippomane. E poi ogni tanto va usato, se no si rovina anche quello, l'MB più 5. Mi è arrivato il messaggio? Eia. Adesso vediamo se riesco a usarlo, sta cacchio di cosa, troppo in mezzo sta, vabbè, mettiamo qua così, mettiamo così in mezzo, vabbè, ok. Ah, ecco qua, mic level, compressione, poi, c'è l'ombra qua, non lo leggo bene. Output, sì, è largo, è un bel largo. Comunque come estetica, come diciamo, l'MC60 è molto più accattivante come estetica, capito? Questo non è nemmeno un granché come estetica. E c'è il microfonino anche piccolo, vedo. Però esce bene, niente da dire. E la spugnetta ci manca, capito? Ci manca la spugna che non ce l'ho. Ma se l'ho venata ce l'ho buttata, se no già esteticamente già bellino, va. È uno stile un po' diverso. No, non emettere spugna che lo soffoca, capito? Con la spugna riusciresti un po' più cupo e più ovattato. Così è molto meglio, dai. Bello, bello. Sì, però come estetica, la MC60 mi piace molto, molto, molto. l'80 non lo conosci l'80, adesso ti mando l'80, che è simile a questo, però senza parametrico, un po' più piccolo. Aspetti, mando l'80 anche. Eia, ok, ti posso sentire in diretta il cicalino di quando arriva. Baba, sto virando la lampadina qua, mi... già finiamo il buio, vedrai. Manda, manda, vediamo se esce il cicalino. Se chiù, se chiù. Ola, già sale, maledizione. Vabbè, dai, mollo la portante. Aspetti, ma dove l'ho messo? A fianco l'85, aspetta. Ola. Oh là là. Te lo ricordi il mago Pancione come faceva? La formula magica del mago Pancione. Ah, uli uli, tuli len blen blu. Io me lo ricordo io. Guarda, ho messo a fianco l'85 per vedere la differenza. Sono simili, Però questo non c'ha parametrico, non c'ha niente, capito? Va bene, prima questo mi metto le connessioni, mi faccio fare da Massimiliano e lo uso, perché questo è più piccolo rispetto all'altro. Eia, aspettiamo che arrivi. Dovrebbe arrivare entro breve. Ah, perché tu te lo ricordi il mago Pancione? Te lo guardavi il cartone animato? O se lo guardava Ilaria? Tutto mi guardavo io. Oh, il mago Mincione era quello, mi. Io me lo ricordo. La spinge comunque, va. Aspita, se spinge. Infatti ti ho detto, lascialo alto, che è ancora più bella, è più piena. Dai, beh, arrivo o no? Mamma mia, questa connessione già è poco lenta, mi fa venire, mi sovrasalta le nervi, mi. Vabbè. Gappa, gappa. Eia, Milo, mi sta caricando, Ecco che arriva. Si sta caricando, dai. Facciamolo caricare. Vedo già l'immagine sfumata, dai. Un attimino, mi. Due terzi, tre quarti. Te la mano in diretta, facciamo la diretta. Ah, eccolo qua, sì, lo stile è simile all'80. Meno roba. Sì, elegante come, però l'MC60 è più. Come dico io, cazzuto, mi piace più il 60 di quelli. Ecco, sì, non ti puoi lamentare, già si è messo bene a microfoni. Te l'ho detto io faccio fatti, non parole. Tutti i microfoni della chiave, ce li ho tutti, 50, 60, 80, 85, ce li ho tutti. L'unico che non ho mai comprato è il 90, perché costava una barca di soldi e praticamente non me l'hanno dato a provare, non mi dava soddisfazioni, non mi sentivo bene la modulazione come deve essere, capito? Quindi non ho mai acquistato, però gli altri sì. Eia, sì, è solo una questione estetica di spazio, perché in effetti l'MC85 per lo largo ne fa due di MC60 in larghezza, però io sono dell'idea di farli lavorare, perché tutta la roba che va, insomma, tutta la roba elettronica, se non la usi si rovina, si sciabideggia, quindi usali, anzi fatti cablare anche l'altro, l'MC80, e a rotazione li usi, capito? Ogni tanto, una volta al mese, una volta come vuoi tu, te lo usi, capito? Così si caricano i condensatori e tutto il resto. Gappa gappa, infatti facciamo così, adesso mi ho messo le cuffie, mettiamo il Moni, il 756, Moni, dove cazzo sei? Eccolo qua. Ehi, la peppa. Aspetta, togliamo la peppa, il connettore. Aspetta, è bella la modulazione, veramente, no, non c'è niente da dire. Aumentando ancora, guarda. Caspita, anche se lo aumento così non cambia niente, praticamente non distorce né niente. Andiamo col compressore. Così col compressore troppo alto mi sembra, vediamo, abbassando 1, 2, 3, 4, andando su, vabbè, questo qui lo pulisco io. Adesso c'è il compressore dell'MC85 e in più c'ho anche il processore della radio. Guarda che bella, tiro su, tiro su, tiro su, eccolo qua, così tutta a manetta. Sai che bella come modulazione. Ogni radio e non strappa, se non parli, se non gridi, se non parli a voce alta, non strappa. Guarda, anche se grido, anche se sollevo la voce così normalmente, come sono abituato, se lo faccio con l'MC60, attento che questa è la mia, la 440, non è l'altra che strappava. Questa è regolata bene, è la mia, mi sono fatto fare l'LC al millesimo. Però adesso c'ho il compressore dell'85 e in più processore del 440. Guarda che bella voce. Oh, dischi. 7 0 7 5 0 0. Che voce arrapante. Siamo una voce di zoccola, ma che ci togliamo il compressore del coso, dai. Eccolo qua, l'ho tolto. Ok, ho tolto il compressore dell'85. Dimmi, mamma mia, attenti. Cos'era quel rumore? Mia moglie col tagone che sta ammazzando il pollo. Perché vivo lo pigliate, no? Sarà già morto, no? Speriamo, c'è un poveretto. No, sto facendo la pizzeria, sto facendo integrame con le olive, mi piacciono tantissimo, mi piace il forno troppo secco. Sì, guarda, ci sarà meno posto, però l'MC60 per il momento l'ho messo a parte. Andiamo con questo un pochino, dai, almeno lo facciamo andare. Perché sto guardando anche il parametrico, cioè ricezione senza antenna naturalmente, con l'attenuatore inserito, il 756x2. Sto guardando il parametrico della modulazione, è perfetta, ma sai cosa dire perfetta? Bella, dritta, con gli angoli bene che sollevano da una parte e dall'altra, qui dovrebbe essere equalizzata bene. Eia, per me è buona. Natalino? Anche per me. Bellami Natalino, veramente mi sto ascoltando in cuffie, è favolosa. Pensavo, io l'ho sempre odiato l'85, perché mi dava una modulazione un po' particolare. Mentre questo, sono rimasto un po' così, Guarda, lo posso anche tirare su, guarda, lo sto tirando su Marco, guarda, e su Maria Chiara, guarda. Non strappa, guarda ogni modulazione che c'è, non strappa, guarda. Sembri il Padre Eterno. The voice, come dice mamma, The voice, chi è, mi, attento, bello, adesso domani vado al cinese e mi compro la spugna. No, non emettere che te lo fa ovattato. Sì, se ti sente mamma questa modulazione dice, aspetta, chi è con questa voce? E io le rispondo, e chi vuoi che sia? Bella, sì, non strappa, è proprio, usalo, perché dimmi se è un po' più largo. Sposti l'MC60, lo metti di lato e usi quello ogni tanto. E purtroppo non c'è Valerio in lontananza, sennò avresti chiesto un controllo a lui, oppure prova a chiamarlo. Valerio, ci sei? Beh no, ma hanno chiuso tutti. Sono le 8:20, sì, precise. Sì, le 8:20. Che aspetta, che modulazione, non so, buona mano. Aspetta, mi hanno mandato un messaggio, sentiamo l'ascoltone, cosa mi dice. Eia, poi qua io ricevo un po' più acuto, per cui a questo baracchino è perfetta. Certo, se un baracchino riceve un po' più cupo, magari sembrerà più cupa, appena più conto nei bassi. Siamo mandato un messaggio a un amico, mi ha detto lampade 60 e lascia l'85. ma questa radio, caro mio, è regolata alla perfezione. L'unica cosa che gli ho detto a Bianconi quando mi ha rifatto questa radio, ho detto guarda, non mi mandare la radio con la LC tutto incasinato perché te la rimando indietro. Falla strumento perché non deve assolutamente strappare e mi deve dare la modulazione bella. Meno male mi ha ascoltato. Ma chi è Massimiliano? Dai, si dice il peccato non il peccatore. Ciao fratelli, dai, buona giornata, no, è un amico, dai, che ogni tanto mi segue tanto tanto e quando lui sente queste modulazioni si commuove. Io capisco, dai. Non ce n'è, Valerio, attento Valerio, guarda quanto sto gridandomi, attento Valerio, se mi sente Giuseppe si spaventa, Giuseppe! Mica entra di voi a fare competizione. Con me, con la radio, con la gente, ma ho nata lì, lo sai che io la rispetto perché è gente che va rispettata, lo sai, perché sono preparatissimi. Preparatissimi, per carità, non niente da dire, con attrezzature d'alto livello, ma come radio, sia uno che l'altro, niente buone nei USO aderito a me. Insomma, una specie di torre di controllo 2.0. Non ce n'è come modulazione, ma anche quando trasmetto, io guarda, ho due ICOM, la prima serie e la seconda serie, no, perché c'è un 2. Non uso l'SM20, non lo posso usare, uso il microfono normale, perché con l'SM20 è da paura in banda laterale, da paura, capito? Troppo forte. Eia, è un bel microfono, dai, tienitelo conto e non lo dare soprattutto. Se lo vado dentro l'armadio, dentro la busta. Dentro l'armadio la busta, carissimo, esci che lo mettiamo a 4 di nuovo, se no vi faccio soldi. È così, caro mio, è così, c'è niente da fare, no? E l'MC80 invece hai detto è senza spinotto? Ma ce l'ho che l'ho recuperato dall'MV+4 che ho dato a Coso. Domani mi metto piano piano, giusto per provarlo. Domani mi metto e provo a vedere se riesco a fare le connessioni, se ci vedo. Lo faccio uguale a questo, mi apro questo, tanto sono uguali. E così proviamo anche quello, capito? A vedere come va. Ma è molto simile a questo, però quell'85 ha sempre avuto qualcosa in più, capito? Ah, già c'è bene anche l'80. Io ti ho sentito con l'80, andava bene. Vero Natali, mi ricordo che l'ho usati tutti e due un periodo, sia l'80 che l'85. Sì, se va bene, lo facciamo andare. Ma va una radio lì che è allucinante. Madre di Dio, sempre staras. Guarda, se te lo sente Capri 2 te lo chiede in regalo. A Capri 2 gliel'ho detto io che ce li avevo, se lo voleva uno. Ha detto di no, chiedo l'altro che c'ho io, l'MD1B8 per attaccare al 757 GX2, quello non l'avrò mai io. Quello è un regalo che mi hanno fatto, rimane lì, c'è la connessione ICOM. Lo uso ogni tanto, però lo uso poco, però rimane lì perché è un regalo che mi hanno fatto del microfono originale proprio della radio che c'ha Gianni Capri 2. Eia. Mi gli occhi, mi. Ti sei vedi, Dora? È uno stalontino mi viene. Mi. No, che poi bagno tutta la mia B+5, dai. Quello che sentiva Valerio, quel segnalino credo in propagazione, che fa pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip pip tutta roba strana che gira per le frequenze, dai. Addirittura, fa roba strana strana. Un po' troppo costante mi sembra come segnale per essere di propagazione, ma... Ma infatti anche a me mi sembra un po' troppo... Mi sembra qualche segnale, Santiago 7-8, Mimi, vai, fai la prova con Valerio. Ma Valerio non ha questi microfoni, cosa c'ha Valerio? Valerio c'ha il microfono di tavola, ragazzi. Senti questo microfono, Valerio, con 440, che microfono è secondo te? Non è un 60, eh? Sì, ma è più forte del 60. Molto, ma molto più forte del 60. Questo è l'MC85 con l'equalizzatore parametrico. Ma scusa, ma non ce l'hai anche tu, perché? Io continuo a dire che stai rincoglionendo, per carità. E non ce l'hai anche tu l'85, non te l'ho fatto avere io, porca miseria ladra. E chi è questo? Ma tu ci vuoi? No, non stai uscendo. Cosa, perché non lo usi mai? Anche questo poco fa non stava uscendo. Ho dato due colpi, vedi che si è ripreso subito. Muovi il parametrico. Mettilo su normal, in alto. Dove c'è il tono, in alto mettilo. Gli slider sono fettenti, pigliano bene di polvere. Ha visto poco fa che il mio non stava uscendo, poi si è ripreso. Adesso infatti lo tengo in funzione, così si riprende un po', va. Eia, sì, proprio non esce il radio, sento un... così. Poi è freddo anche l'apparato, no? Dovrà scaldare. Eia. Oh, a parte già è bello, è anche più elegante. Forse l'MC85 e l'80 sono più eleganti, diciamo l'MC60 è più da battaglia, mi aspetto, una forma più, come dire, non so come dire. Natali, vai tu. Quelli disturbano le orecchie gli 60, invece questi sono più rilassanti, infatti non ce la fanno manco a strappare. E questo è importante! E sarà dalle parti tue. Sì, vabbè, sono contante. Vabbè, dai, io vado a cenare, ci sentiamo, ciao. Ciao a tutti, dai. Grazie per la compagnia, stasera ci siamo anche un po' sbizzarriti un attimino. Ci sentiamo, a domani, ciao, chiudo. Ma dove è nascosto più? Guarda la faccenda, perché io non ti ho sentito più. Perché sono dovuto uscire, sono rientrato adesso. È rientrato adesso. Ascolta, sto usando l'MC85 col 440, secondo te va meglio del 60, mi stanno dicendo. La portata è qua, 915 qua. Non la passo io. Ma disturba, sì, già ti sento, ma disturba. No, cazzo, esistono ancora le portanti. No, non è una portante, qualcuno che sta provando che non esce, no, non è una portante, dai, no, non ce n'è più portantisti. E beh, Valerio, stavi dicendo, è freddo, non esce? È importante, dai, vabbè, ci sentiamo, ciao, divertitevi, ciao. Ciao Giulio, dai, no, ma non è una portante, qualcuno che non esce sicuramente, non ci voglio credere che sia una portante, no. Cosa stavo dicendo? No, Valerio. No, Valerio sta provando a vedere come mai l'85 non esce. Strano. Ah, ho capito. Il problema di quella radio è quello lì, che quando accendi ci vuole il fuoco prima di 430 e 440. Lo lascio a 20 watt, lo accendo a 20 watt, è pronto a modulare. Proprio qualche secondo, giusto per... assestare un po' i condensatori, ma poi per il resto non c'è problema. Va bene, dai, lascia. facciamo l'85 allora, così così va bene, vero Marcolino Condo? Sì. No, ma non è qualcuno che non esce, ma qualcuno magari si, che è convinto di disturbare qua. Non lo sa che noi siamo a tiro di balla, no? E se non gliela tiro io la balla in testa, però sono commosso, quando sento queste modulazioni mi commuovo io, me ne stanno scendendo le lacrime anche. Ehi, eia. Eia, bello, bello veramente. Aspetta, ma quanta roba c'hai in quell'armadio? Tu non me l'hai mai fatto vedere l'armadio aperto. Scommetto che è pieno fino all'orlo, pieno di roba. Come Massimiliano si spaventa. Allora tu immaginati che per tenere, perché è un armadio molto, molto vecchio, però bellissimo, in condizioni ottime, Giulio già l'ha visto, armadi che si usavano tanti tanti anni fa, che me lo sono tenuto proprio per mettermi in barrazza in questa cameretta, no? Nella sala radio, ordinato, per carità, non sono problemi. Sopra c'è i ripiani, dal peso che c'è, per mantenere i ripiani, le giubbatte, due, tipo quelli in mattarello, no? Le ho fatte a misura, gliel'ho cugnati sotto, perché ho visto che si stava imbarcando. Si stava piegando sotto il peso della roba. Ehi, mica non mi fai adutto, mi. L'importante è che tenga bene, dai. Ehi, ok, ma per oggi siamo soddisfatti, eh? Di prove e controprove, no? Questa è una prova, ma così, perché è entrato Elio, stavamo parlando di 80-85, ho detto, ma io ce li ho dentro l'armadio da tantissimo tempo e non li ho ancora provati. Uno è senza connettore, perché non è stato mai usato, figurati tu. Perché quello che avevo, ne avevo due anche io, tempo fa, e li avevo venduti tutti e due. Uno ho fatto cambio con Valerio, perché per lui va molto meglio l'85 rispetto al 60, se lo può correggere col parametrico. L'altro non mi ricordo a chi l'avevo dato. Poi me ne sono entrati altri due ed erano sempre dentro l'armadio. Quindi uno però col connettore, che lo usava un radioamatore, e l'altro senza connettore, quindi l'altro non te lo posso far sentire, ma in settimana già mi metto il connettore e te lo faccio sentire, perché anche quello va bene, eh? Non so se va bene come questo, però... Ehi, ehi, io sto prendendo invece il vizio col microfono da palmo di parlare un po' forte, anziché parlare piano piano così, come parlavo una volta. Vabbè, questo è amplificato ed è un conto. Ma col palmare, sto parlando così, mi. Alla fine faccio a burotto e disturbo anche in casa mamma che si guarda la televisione. Invece basta parlare piano piano, toccato, questo già fa il suo lavoro di amplificare, dai. Sta mancando l'acqua qua. Oh, aspetta che controllo qua dopo anche. Non ti preoccupare, adesso il telefono te la faccio ridare. Ma qua ancora c'è. Diciamo che qua non manca mai, solo che la riducono la portata dell'acqua. Però in questi periodi è raro che manchi. Invece c'era un periodo anni fa che proprio di notte la chiudevano l'acqua, la chiudeva. Ehi, vabbè, non ci possiamo lamentare ancora, dai. Purtroppo noi vasconi non ne abbiamo, perché purtroppo nonno a suo tempo non ha voluto metterne, perché abitava qua, insomma, tanto tempo fa abitava qua. Quando c'erano i vasconi disponibili non si è voluto allacciare, molto stupidamente, e quindi siamo gli unici, no, non gli unici, siamo un pare due condomini senza i vasconi. Invece qualcuno se ne è preso due, e indovina chi? Questo di sotto. E poi due ne ha, mi pare, quella di sopra pure. Capito? I più lonfi, i più furbi, se ne sono pigliati due. Me ne sa posto. L'apporato. Te l'ho detto, anche questo poco fa ha fatto così. Poi ho dato due colpetti, ta ta ta ta ta, e si è ripreso. Eia. Naturalmente Claudio ha una voce particolare, che proprio si adatta a questo tipo di radio, a questo tipo di microfoni. Bene, bene. Io quando mollavo il tempo me ne scendevano le lacrime, perché mi commuovevo, capito? Natali, ma quanto bene a te ti andava, a quanto ho capito a te ti andava bene con tutte le radio, col K andavi bene, con l'857 andavi bene. E con tutte andavo bene io. Avevo una modulazione paurosa. Si scambiavano per Claudio a me. Addirittura. Basta chiederglielo se non ci credi. Dovevo dire che ero io, perché sennò magari succedeva qualche casotto. Mi dice, beh, Claudio, mica non sono Claudio. Così è. Meglio. Credo che Giulio fosse in ascolto sulla monitor. 9:15 gli arriva. E a Valerio arriva lo stesso. Potrebbe essere una portante in zona, una metà strada tra Campanella e... tra Giulio e Coso, cosa c'è? Tra Giulio e Alghero e Valerio, Campanella, cosa c'è? Ok, la portante lì è. Valerio ha detto che la sentiva, sentivo questo tu. Giulio 9:15, magari è in zona, tra i due, potrebbe essere Bancali, potrebbe essere... No, Campanella è un po' lontano, mi sembra, magari un imbara mobile, tutto è possibile. Sì, infatti. Claudio, divida te se mi scambiavano per te. Sempre. Mi entrava Natalino, ciao Claudio Alfarvie, no, sono Claudio Alfarvie, che sono Natalino Alfa 1. Aspetta. Allora sta uscendo proprio bene. Come ci vivo io, è l'unico che porta bene quella radio è Natalino. Cioè Natalino, Tino, lo porta molto bene lo stesso. Qualche un altro, ma sono pochi, capito? Beh, Valerione, e allora? A mangiare è andato Valerio. Ma io non ho sentito niente. Neanch'io. Adesso, dove cacchio la trovo della cuffia così fine per questo microfono? Così ne compro due, no per l'80, no per l'85. Ma vuoi una cuffia con spinato piccolo? E tu cos'hai? Cuffia a spinato grande? Compri l'adattatore da grande a piccolo e risolvi. No, io ho un cuffietto all'armadio, c'è due sole nuove nuvole dentro la scatola ancora, c'è quella col microfono a pedale anche. Ehi Marco, di cosa c'è lì dentro? No, la cuffia antisoffio per mettere nell'80 e nell'85, così piccole, dove le trovo? Non lo so. Una volta, Cineradio, ma ti parlo di tanti anni fa, vendeva cuffie di tutti i tipi, per esempio, adesso non saprei, ma prova la GBC, non lo so, prova la GBC che ha roba di impianti stereo, di mixer, se hanno cuffiettine. Alberto abitava qua vicino a me, parlava in Cineradio prima, ma quelle grandi me le ha date lui. Ce l'aveva, ne aveva una busta, però queste sono talmente piccole che non è un casino, non sarebbe le truffi. Ah, si sarebbe Vittorio Franco. Vittorio, perché? Quasi che ce le abbia. Lei sta decidendo cosa fare questo televisore, se portarglielo, farà partire direttamente lo gommo. Adesso aspetta mia figlia per cosa dice, se no domani andiamo a comprare un nuovo. Perché io non mi ricordavo, a me mi metto, guarda che mamma l'ha fatto riparare già due volte. Quindi, non puoi stare di tira e molla. Il televisore è nuovissimo, la Grundig, però c'ha già gli anni suoi, quindi non puoi stare a riparare, a fare. Non c'è niente da fare. Si compare già nuovo e ciccia. Più grande e più bello anche. Ah, che troppo grande per il salone. Prendo un 42 già va bene. Prendo un LG 42 o un Samsung 42. Ma era bella schermo piatto. Adesso vediamo, stavo ancora, ma c'ho anche il catalogo io. Non costa neanche molto, c'è da 4 c'è, ce n'è uno 4,99 da 42 pollici, non fatta, quella LG. Ecco, però ci vuole la tua spesa adesso. Che rottura di balle, guarda. A quanto ce l'hai il parametrico, il Mickey Leffe, dai, lascia perdere il Mickey Leffe, in quanto ce l'hai tu, ovale? Devi metterlo a posto, però muovi di trailer, accendi e spegni, perché quello c'è l'accensione, il bello dell'85 è quello, capito? C'è l'alimentazione diretta dalla radio, lo puoi accendere e spegnere, capito? Quindi con una rifi di alimentazione, però se si è inchiavato, se c'è sempre un gatto di baracchino. Valerio, mi ascolti? Vado in bagno. Lo so, purtroppo più di così non posso fare, va, per il momento. Ma perché, Valerio, lo senti a Tarifo? Ho capito, no, beh, se tiene la potenza alta già lo senti, però con la potenza così bassa no. E cosa vuoi fare? Mamma mia, come sto? Quando vi penso, ma tu immaginate che Natalino abitava su a Filighetto, in capo al mondo arrivava, davanti a Terami, con il mio stesso segnale lo ricevevi, guarda. Da Robusso Variacca. E se abita il fratello, abita lì, capito? Abita il fratello lì e lui se ne è sceso giù, in basso. Ma una zona così bella, ma bella veramente, poi in campagna, in alto, c'era un palo per la Mantova da 10 metri, poi era ben organizzato, capito, perché lui SWL ha partecipato un sacco di volte anche ai contest degli SWL, c'è un sacco di diplomi, organizzato bene era, da tutte le parti qua, organizzato bene veramente. Infatti che c'era un radiomotore amico suo che andava a casa sua a fare i collegamenti, perché c'era questo dipolo messo bene, un dipolo multibanda, 5 bande, la D5LV, e andava lì a fare i collegamenti a casa sua, perché c'aveva la radio uguale a questa, 440. E poi un sacco di cose non sono andate bene, ha dovuto cambiare casa, si è venduto tutto e adesso è in questo bunker lì giù che guarda, non riusciamo a bucare i birighe. Niente da fare, vale, se solleva la potenza più di quello distrutto. Non c'è niente da fare, è un bunker proprio, è un bunker, guarda, tutte le antenne lì a mucchiate, della TV, è un vicolo, è un casino. Lui lì in campagna, non aveva problemi di niente. E cosa vuoi ti dica, pazienza, è andata così. Avanti, stata lì, a futtidini, verranno i tempi migliori. Signora Vozia, cosa vuoi ti dica? Adesso piano piano sto preparando quell'antenna là. E magari con quell'antenna lì riesci a risolvere il problema, Natali. Comunque, prima o poi riusciremo a risolvere questo problema, perché guarda, adesso inizia sicuramente il tempo brutto e te ne rimarrai così. Come inizia il tempo bello, in primavera, marzo, ci faremo un raduto, può darsi anche prima, se troviamo una giornata bella, anche se è fredda, però che non piova e non ci sia vento, e si fa quello che dobbiamo fare. Ma poi un imbecille, vale, perché quello di su non deve fare niente, a me mi deve dare solo la possibilità di salire 5 minuti, 5, sfilare quel tubo che c'è, metterne uno più lungo, innestare l'antenna che è a cavallotti e me ne scendo, basta, in modo che lui superi il torrino di questo cacchio di palazzo e basta, le aggancio due tiranti e lui è a posto, non deve chiedere niente a nessuno, non lo fanno salire, cosa devo fare? Non ti fanno salire, capito? Se ti metti con l'autoscala fuori, ti chiamano i carabinieri, è un casino, non ne vuoi capire, guarda, mi dispiace tantissimo perché un appassionato di radio come lui, penso a Sassa che ce ne siamo pochi. Busco qualcuno che c'è all'autoscala, vedi cosa combino. Sì, per l'autoscala non abbiamo problemi, Natali, già se mi organizzo già la procuriamo, non è quello il problema. Dice che l'autoscala un'ora, mi a me. se la procuro vedi che già salgo io sopra. Ma ragazzi, infatti io ho la concessione e tutto, che li chiamino i carabinieri, poi così mi diverto, la piazza di prepotenza. Lei vedrai che già prima o poi succederà qualcosa, non ti preoccupare. Vai Marco, quando schiaccio il PTT non si sente nessun rumore adesso, no? No, no, nessun rumore. È perfetto, perfetto. E beh, quando chiamano i carabinieri, Natalì, la faccia dietro. Oh, state, stiamo facendo i lavori, basta. Poi tu sei, c'hai la concessione, non è che devono fare storie più di tanto, mi. Se non si fanno storie, se cominciano a fare stalking, minacce, cose, già lo sai cosa devi fare, sì. Ehi, uno è già pronto, l'hai sposto, figurati. Meglia. Poi, aspetta, mira ambulanza, mi, senti in diretta. Sta salendo, aspetta. Vediamo se sale qua. Sentita? Se non è entrato F1, dove prende F-bar. Con la camicia di forza vengono, mi, qua. Sì, basta, la camicia di forza. Mara, dato che non sia CRC, vale. Spray per contatti, io adesso non ne ho spruzzato, ma domani lo apro e glielo spruzzo. Perché tanto, se glielo spruzzi da fuori non ce la fa entrare. Devi spruzzarglielo da dentro, capito? Una bella spruzzata sia gli slider da dentro che al PTT all'off, ma soprattutto dove c'è l'accensione, che è quello che comanda, capito? E quello è perché non lo usi, se non lo usi fa quel difetto, capito? Anche questo ho fatto inizialmente così, si è ripreso subito, però tu sei da tanto non lo usi, perché da quando ti hai comprato quel baracchino, faccio esempio, un piccolo elicottero, il giorno ti si sfasciano le pale di quell'elicottero e cade a testa a terra, già ti voglio vedere che lo usi 140, se no, se non lo usi, dalla Giuseppe che lo usa lui, vai che non tocca niente, poverino, la gente che andava nei chivi a fare quel lavoro, e vedi poco i baracchini volando dalla finestra, dice baracchini vici, gadrodi, non lo so, quando ce ne siamo andati noi non ce n'era così, assolutamente. Adesso vediamo quando vado, sto ronzio, quel cacchio è uscito fuori. Se non è il microfono, come lo tira, sai che quei sfinuti sono un po' particolari, io ho il maschio e femmina, l'ho già comprato, però me devo portare via la radio, tutto, e andare a casa di Gigi o da Massimiliano e farlo, perché ho lavoraccio, capito, e mettere il connettore a 4, sia maschio che femmina, così le metti la ghiera, può tirare quanto vuole, non si stacca, ma così si stacca, e se non tocca bene fa ronzio. Sì, togliere quello a 4 punte a incasso e mettere le maschio e femmina a 4, ce l'ho già, ma l'ha dato lui, e quello lo uso per lui, e la radio va modificata, se no con la radio faccio una cosa, gliela ritiro, gliela vendo e le metto un Galaxy Saturn Echo con l'MB più 5 e così lui è a posto, capito? Perché è un casino, quella radio è bellissima, esce molto molto bene, molto bella esteticamente, mi piace un bel, ce l'hai visto, però c'è il problema del connettore a infilare, capito? Non è a ghiera, e quindi è così, boh, vediamo. Adesso quando sistemo l'antenna e tutto, vedo se è d'accordo, si vende quella, si porta via quella e le porto, le do il Galaxy che praticamente mi ha dato Sandro, vediamo un po', che è nuovo, ma almeno è una radio più recente, diciamo, dai. E tarare l'antenna. No Marco, non so come l'antenna è tarata. No, ma poi io ciabatte, ciabattine, con un sacco di cose inutili. Lì ci vuole la presa diretta, poi il problema suo è che quel carrellino è piccolo, non ci sta niente, c'è il 757, ma il 507 che è grande, enorme, lineare, più la radio che è un base, boh, non ci sta più niente, il microfono sopra la radio non si può mettere che è alimentato a 220, magari è quello che sta portando il rumore di alternata dentro, capite? Il microfono vuole lontano. Ci sono un sacco di cose che vanno riviste da lei, capito? E gli diamo lei, dai. Ok, anche stasera abbiamo fatto un bel po' di prove. No, come si dice? La cosa che mi ha un po' lasciato di stucco è questo 85, io non lo stavo usando, invece gira che ti gira va meglio del 60. Ok, dai, ti passo Marco per i saluti, ciao Valerio, buonanotte, a domani, vai Marco. Ciao Valerio, buonanotte, buona serata, buon tutto, e ci sentiamo domani, ok? Poi Natali, prova a chiamarlo. Ciao Marco, stai andando via, va. Anche io mi fa un po' che me ne vado un pochettino, ciao più qua. No, Valerio ha chiuso, Valerio. E ti saluta anche Natalino, Valerio, dai, che sta chiudendo anche lui, ok? Va bene, prego, prego. Poi magari ci vediamo, ci sentiamo un pochino, dai, andiamo a farci un'altra mangiata. Tanti oramai sono libero, non ho problemi di sabati, di domeniche e di quant'altro. Oramai si ravvigliano i gomiti della vostra mamma. E fino al 20 novembre sono in ferie, e poi anche se anche oggi stamattina mi hanno chiamato alle 8:30 una collega che non voleva una consulenza veloce veloce, insomma, provata, comunque io sono in ferie, no? Fino al 20 novembre. E poi rientro, faccio gli 8 giorni, dal 20, che poi sono 10 giorni, ma c'è riposo, fino al 30 novembre e poi basta, poi è finito. E dicembre nulla, no? No, dicembre quest'anno me lo godo con la famiglia, perché sono dal 1996, da quando sono arrivato a Perfugas, praticamente da Cagliari, che non faccio un Natale e un Capodanno a casa, capite? Un anno, tu immaginati che l'ho fatto all'impianto, perché facevo i turni all'impianto di Facebook, al potabilizzatore di Facebook, facevo i turni. Sono entrato alle 10, dalle 10 alle 6 del mattino. Abbiamo festeggiato a mezzanotte il Capodanno, di mezzanotte dentro, rinchiusi dentro la casa, dentro gli uffici, perché c'erano tutti i pastori che stavano bombardando con i fucili e i cacciatori. Quindi noi, per la paura che ci ammazzassero, eravamo rinchiusi dentro casa, capito? Con spumante e panettone, in due, come due imbecilli. Alle 6 del mattino, quando abbiamo smontato, che praticamente era il primo dell'anno, questo è il 31 di dicembre, lo ricorderò fino a quando campo, il primo dell'anno, siamo andati a Perfuas alle 6:30, abbiamo aspettato il cambio di turno, ho passato le consegne eccetera, ci abbiamo fatto gli auguri con gli altri colleghi che sono entrati il primo dell'anno alle 6 del mattino. E alle 6:30 sono andato a fare colazione tutti a Perfuras e poi me ne sono rientrato a casa. Quindi immaginati tu, vita da zingaro. Ehi, molto sacrificio. Adesso però ti rifai, ti devi rifare. Ah, discoteca, quella di sabato e domenica. Luca, ciao, buonasera. Allora, discoteca. Io non mi è andato in discoteca, quando mi sono sposato io sono mai andato in discoteca, da ragazzino andavo, adesso sono finite le discoteche, in discoteca va Luca, vero Luca? Sì, come no, sai quanto mi piace, quanto piace a te piace a me. Cosa vedi, tutum, per carità, non è meglio farmi una seminata, mangiarmi una vita a mangiare in campagna eccetera, cosa discoteca, lascia via. Dai, ti vesti tipo La febbre del sabato sera, mi, tipo John Travolta in quel film. Da magone mi vesto. Con la camicia bianca, con la giacca bianca, ti ricordi che la fa girare sopra e poi la lancia, no? Mamma mia che tempi. Ciao Luca, ben entrato. Ehi, allora, che sono venuto qua, ero lì a Casa Pound. Praticamente hanno fatto, diciamo, un ritrovo da tutti i quartieri, tipo Monte, Santa Maria di Pisa, per quanto riguarda l'accaduto che è successo l'altra mattina lì a Santa Maria di Pisa. Adesso vediamo un po', dice che loro riusciranno, questo comitato, a fare qualcosa, vediamo, ci dobbiamo riunire tutti, andare, fare delle chiacchierate, rompere le balle al sindaco, eccetera eccetera. Quelli sono fascisti, non ci andare con quelli. Ma perché anche nella zona tua c'è di questi cuocomani? Cosa, Cla? Ho detto se ce n'è anche nella zona tua di questi cuocomani. Cazzo, in via Panaggia, praticamente lì c'erano delle famiglie, ma un palazzo di, non so se 3-4 piani, praticamente questo palazzo non era più agibile, allora queste famiglie li hanno mandati via. Cioè, se il palazzo non è agibile per nessuno. E ci hanno messo questi rigadarani dentro. Vabbè, ma io ci dico che palazzo lo sai fare, non è fatto nulla. Ma dico, se, grazie, ci abitavi tu, e per te quel palazzo lì non era più agibile, cioè non ci potevi più abitare, perché hanno messo le cadarane dentro? Cioè, se vale per te, vale anche per loro, no? È forte, dice, le cadarane, perché sono niente, no? Già è così. Ascolta, adesso esci in radio, non è che c'hai una spugnetta di quelle antisoffio piccoline, no? Per l'MC80, 85, ti ricordi? Tipo quelle microfoni di cuffie. Piccoline sono. Sì, una di quelle piccole, tipo microfoni di cuffie, capito? Tipo microfoni di cuffie, così. Giusto per avere il feltrino davanti. E poi un'altra cosa, Lu, il televisore del salone non accende più. Secondo te riesci a metterlo a posto? Pagando con i soldi. Allora, il feltrino ce l'ho, però questo qua, aspetta un attimo, il microfono ci avessi in miscia, chi so. Ecco, un po'. Non è rotto, però già ce l'ho, dai. Di questo microfono manco lo uso per il computer, ce l'ho uno, sono voi. Poi per quanto riguarda il televisore, non so cosa ti ha fatto, qualche rumore ha scoppiato? Nulla, l'abbiamo spento ieri notte, oggi siamo andati a accenderlo e non accende più, non accende, capito? Schiacci il pulsante, non si accende, la luce rossa non accende, quindi non so cosa cavolo è. Sì, domani se vuoi, lo sorprendi, andiamo a prenderci il caffè, se vuoi te lo porto, se te la senti di controllarlo, e così mi dai anche quella cuffietta, non prezzo naturalmente, dimmi tu. E uia, quanti pollici è? 32, Lu, non va ragione, schermo piatto però, è un Grunding, è un peccato perché era dei miei suoceri, capito? Ed è un ricordo, lo voglio mettere a posto, però voglio vedere se prima si può mettere a posto, secondo me è roba di alimentazione. Portamelo, scendi, vai, così me lo controllo con calma, perché venire lì, cioè, poi magari se riesco. Quanti anni ha più o meno questo, come si chiama, questo televisore? Quanti anni ha il televisore, tu? Ma io forse 15 anni non ce li ha. Non ce li ha 15 anni? 13, 14 anni avrà. A schermo piatto, allora si può riparare, dai. E penso che poi bisogna vedere la scheda. Devo smontarlo, vedere la scheda d'alimentazione. Ma penso che si possa riparare con pochi soldi, certo non si può buttare il cilindro da sopra, no? Ne aggiungi altri 100 e te lo compri nuovo. No, ma infatti tu, capito, se si può riparare sicuramente la scheda di alimentazione, se si può riparare, la ripari, compriamo la scheda, quello che è, ti pago la manodopera, è tutto, perché è un ricordo, capito, non voglio buttare via, in ogni caso poi me lo comprerò nuovo, non è che me lo tengo, però lo voglio riparare, magari me lo metto qua in cameretta, dove c'è il radio, capito, mi vuole un rubiantone, me la piccolo muro, e basta, vediamo, posso passare a prenderti o no? Allora, passarmi a prendere no, però se vuoi mi porti il televisore, ti do... Però mi sa che non sono... Queste, vabbè, non è quella che avevo sotto io. Sono levato da un'altra cuffia nuova, però mi sa che mezzo... Ma no, va bene, là, non è rotta neanche. Ma... devo controllare, mi sa che c'ho qualcuna nuova, non mi ricordo quelle ho messe. Mi sa che sono dentro un coso dove ho un po' di oggetti dentro, no? Lì ho messo una parte del tipo viti, cose così, e dentro c'è, ci sono questi cosi qua, questi cosi in gomma piuma. Se c'è uno più buono, nuovo è meglio, dai. Ma non si trovano così piccoli, Lu. Devo comprare un paio di cuffie. Andare dai cinesi, comprare cuffie con microfono, e ce l'ho già la cuffia con microfono, una rottura di scatole, comprando un'altra con una cuffietta, ma non frega niente, anche se non è nuovo, l'importante è che copra la punta del microfono, che è brutta così, non mi piace. Ascolta, a che ora passo? Allora, domani mattina, verso le 10, ti va bene? Sì, che mi va bene, perfetto. Tanto poi da lì devo andare al patronato, perché apro alle 9, da 9 all'1, quindi mi viene benissimo. Dai, verso le 10, ti porto la TV, se hai 2 minuti ci prendiamo un caffè e poi me ne vado, va bene? Sì, tranquillo, domani mattina per quello chiamami, se che me ne dimentico e... Questo periodo sono un po' rincoglionito, non ne dimentico delle cose. Chiamami per cosa, ce l'hai il numero, così lo lasci e vediamo, ti do un'occhiata. Ti dico, se da riparare, se ci può riparare o se da buttare. Perché se da buttare, o te lo carichi in macchina tu e ci vuoi tu l'altro parco, me lo carico io e ce lo butto io. No, buttare no, Lu, lo metto sui mansarda, non lo butto, lo ricordo, Lu. Se si può riparare va bene, se no lo prendo e me lo riporto a casa. Lo metto sui mansarda e ciccia, tanto ho tolto quello di camera da letto, e le gie l'ho messo nel salone adesso. Quindi momentaneamente il televisore nel salone c'è, non ero in camera da letto, pazienza. C'è il biglielluccio, però buttarlo non ho capito, io te lo do, tu guarda, se si può riparare, qualsiasi cifra me ne frega niente. Basta non sia una cifra elevatissima, però se si può riparare lo riparo e lo rimetto al suo posto. Se non si può riparare lo prendo, lo porto sui mansarda e lo lascio in mansarda con le altre cose che ho di mia suocera, capito? Cara, domani così io mi assido bene. Vediamo un po', se magari se hanno anomalia la scheda d'alimentazione, da lì se ne accorgi. Se no magari diamo un'occhiata su internet, cos'è so. Di qualche radio la Ciappi, anche usata, oppure nuova che magari l'hanno staccata da un altro televisore. Dove si trovano questi pezzi? Dai, tiro il suo scappo, come sta aspettando la signora fuori, dobbiamo andare a cenare. Tu per quando domani mattina chiamami, ok? Ciao a tutti. Ehi, allora ti mando un messaggio su WhatsApp, capito? Non ti chiamo neanche, già c'ho il numero di WhatsApp, ti chiamo, ti do, ma mando un messaggio WhatsApp e ti dico, mica sono qua sotto casa tua, ok? Andate, ciao a tutti, buona cena, se l'avete mangiato, buona digestione, ciao. Ciao Lu, grazie di parere, riprendi Marco. Ehi, ciao Luca. Ehi Claudio, io adesso chiudo qua che... sono tutta la sera seduto, ho le chiappe, cioè le piaghe da decubito, da quando sono seduto all'orecchino. Vabbè, dai, vediamo. Ce l'ho qua, adesso me l'ho preparato il televisore, così domani lo do a Luca. Ciao Marco, grazie, dai, ciao anche a Valerio, ciao anche a Natalino, ciao a tutti, è arrivata mia figlia, sentirei le voci, si capisce un cacchio. A domani, ciao. Ciao Claudio, ciao Natalino, ciao Luca, ciao a tutti. Ciao. Bello, anche lì esci penimi. No. buona cena, buon tutto. A domani, ciao. Ciao a tutti, buonanotte.